L'infanzia. 1. Spot. Una credente che chiameremo Anna mi ha autorizzato a leggervi la drammatica testimonianza del suo tragico matrimonio terminato con la morte del marito. Ti chiedo solo di non perdere nessuna delle 9 puntate perché Anna parlerà delle sue illuse e deluse aspettative, del suo odio per il marito e della sua vendetta. Cose da fare rabbrividire, ma purtroppo realtà di tante spose, anche credenti. Ascoltami su CRCFM ed incoraggia altri ad ascoltarmi. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, benvenuti all'ascolto del nostro programma. La trasmissione di oggi è l'inizio di una serie di trasmissioni nelle quali leggerò e commenterò la drammatica testimonianza di una credente di nome Anna, dove lei racconta in merito alle molestie sessuali subite in età adolescenziale, al suo iniziale rifiuto della fede cristiana professata e insegnata dai genitori, ma soprattutto al suo tragico matrimonio terminato con la morte del marito. Lo scopo di queste trasmissioni è far comprendere l'insufficienza che i due sposi siano credenti o figli di Dio per avere un matrimonio soddisfacente e anche mettere in luce drammi, tensioni e ribellioni che si possono avere nei confronti di Dio nonostante si sia posta fede in Cristo quale Salvatore e Signore. La testimonianza di Anna inizia con la dichiarazione riguardo alla propria attuale consapevolezza di aver vissuto un cristianesimo formale per tutta la vita, nonostante si fosse sempre professata cristiana. Ecco le sue parole. Di religione si muore, parole che possono suonare paradossali o provocatorie, ma la mia esperienza mi autorizza a confermare che è possibile venire a contatto ed essere contagiati da questo temibilissimo quanto subdolo virus che attacca passando quasi inosservato, e il più delle volte i primi sintomi sono molto sottovalutati. Io mi sono ammalata molto gravemente di questa malattia e credo di aver visto da vicino la morte se non fosse stato per il valore che il sacrificio della croce ha in sé e ho voluto che avesse per me. Mi sono accorta di essere affetta da questa malattia quando ormai il danno era molto avanti. Posso dire di più. Non sapevo neanche della sua esistenza e di esserne affetta, anzi ero convinta di godere ottima salute. E quando ho cominciato ad avvertire i primi malesseri, trovavo altre motivazioni che potessero giustificare questo non senso della vita che continuamente mi avvolgeva. Deve essere molto simile alla morte per dissanguamento, scivoli, e quasi senza accorgertene ti addormenti nel sonno della morte. E da notare che Anna non è un'atea che viene alla conoscenza di Dio. Infatti, grazie alla propria famiglia, Cristo Gesù, Dio e il regno di Dio gli erano noti. Non era a conoscenza. Però era di essere affetta da quello che lei chiama il subdolo virus della religione, cioè conoscere le cose in merito a Dio, ma senza che queste producano nella vita un cambiamento tale da indurre ad adeguare. Quante persone si trovano nelle situazioni di Anna e non lo sanno, e quando vengono a conoscenza, come ha detto Anna, ormai il danno è molto avanti. Che quanti mi ascoltano possano riflettere sulla propria vita spirituale, per non scoprire solo dopo molti anni, come nel caso di Anna, di non essere mai stati cristiani, pur avendo sempre vissuto apparentemente come tali. Dopo questa doverosa premessa alla sua testimonianza, Anna inizia raccontando i primi contatti con l'Evangelo. «Nonna, andiamo a... avanti io vo!» Era così che, all'età di circa 4 anni, chiamavo la comunità che mia nonna aveva cominciato a frequentare, un pugno di luce che si stagliava nella stradina. Buia. Dietro quella porta c'era tutto un mondo per me, era come spalancare le porte su una realtà nuova che sapeva di infanzia, di favola, non capivo nulla di quello che potesse significare, ma ero attratta da questo piccolo gruppo di persone per lo più anziane che si riuniva dopo giornate lunghe e faticosissime di lavori nei campi per pregare insieme, leggere la Bibbia e cantare, certamente in maniera alquanto anomala, in dialetto, senza musica, con parole anche improvvisate, ma il tutto aveva un'armonia che ancora oggi ne ricordo la sensazione. Una quasi stalla, poche sedie che ognuno si portava da casa, la luce fioca di una piccola lampadina. Tutto qui il locale di culto. In questo posto ho trascorso una parte della mia prima infanzia, e questo ha certamente influenzato e segnato la mia vita. Frequentare questo locale di culto era motivo di scandalo per il piccolo paese, arroccato sulle montagne dell'Italia del profondo sud, specialmente negli anni a cavallo fra il 1945 e i 50esimi. Una natura dura, rocciosa, difficile da coltivare, selvaggia, quasi inaccessibile, tanto da far scegliere questo piccolo paese come posto di confino politico durante il periodo fascista. Infatti, proprio durante il suo confino per motivi religiosi, una sorella di Roma portò la prima testimonianza del Vangelo. Facilmente immaginabile il tipo di vita dei pochi abitanti, tutti vivevano all'ombra della religione ufficiale, ogni fatto pubblico o privato era vissuto proprio attraverso la religione. Questa sorella, dalla maggior parte degli abitanti evitata, fu accolta in casa da mia nonna, una donna sempre aperta all'ospitalità. E proprio durante queste visite in casa di nonna che questa sorella cominciò a parlare del Signore, ma anche qui trovò contrasti e difficoltà perché non tutti erano d'accordo. Anzi, alcuni membri della famiglia erano e sono rimasti apertamente contrari. La diffidenza e l'allontanamento di questa sorella nasceva da diversi motivi facilmente inimmaginabili. Intanto era una donna che veniva dalla capitale, quindi abituata alla vita della città. Era stata mandata lì dal governo per gravi motivi. Era una detenuta, il massimo poi era che parlava di una religione strana, oggi direi di fede, che era apertamente avversa alla religione ufficiale, quindi una persona decisamente poco raccomandabile e perciò da evitare accuratamente. Infatti, la gente per bene la teneva alla larga. La successiva esperienza narrata da Anna susciterà molti ricordi alla memoria di chi è più avanzato negli anni. Fra i miei parenti uno zio di mia madre accettò il messaggio della salvezza e quando la sorella tornò libera a Roma guidò un minuscolo gruppo di persone analfabete, un tempo ritrose e diffidenti. Molto spesso la sera, oltre alle riunioni nel locale di culto, ci si trovava in casa a pregare. Di leggere se ne parlava poco perché chi sapeva leggere impiegava un tempo infinito per leggere due righe, ma il Signore li istruiva lui stesso. Ho conosciuto credenti che analfabeti sapevano leggere solo la Bibbia. C'era chi componeva cantici, persone insignificanti agli occhi del mondo, gente che non contava assolutamente nulla per gli altri. Erano gli scarti. Certamente la mia famiglia non era vista di buon occhio. Tutt'altro. Spesso il parroco, peraltro un parente, predicava contro queste persone che si erano allontanate dalla vera dottrina, praticando dottrine strane e contro Dio, i santi e la Madonna. Eravamo additati ed evitati, ma proprio in quegli anni il Signore confermava la sua parola con segni prodigi, sia nel piccolo gruppo e a volte anche a favore di non credenti o persone ostili. Questo dava coraggio al piccolo gruppo che andava molto faticosamente aumentando tanto che nel giro di una decina di anni si poté aprire un vero locale di culto un po' più accogliente del primo, ma soprattutto, visto che i tempi politici erano cambiati, poteva accogliere liberamente i credenti, anche se a dire il vero non era proprio liberamente, perché molti avevano paura del giudizio dei paesani, entravano nel locale di culto di nascosto e non si esponevano pubblicamente. Spesso erano oggetto di atti di vandalismo, dispetti ed anche intimidazioni. Ma chi aveva fatto un'esperienza autentica di salvezza ne traeva forza, sembravano indistruttibili. E ancora vivo il ricordo di quel senso di unione che, anche se molto piccola, anch'io percepivo, respiravo quella fratellanza, il desiderio di stare insieme, desiderio che ancora oggi sento molto forte ed indispensabile. Quando ci si riuniva in case private, specialmente d'inverno, il credente più distante dalla casa in cui ci si doveva incontrare partiva dalla sua casa, con un legno acceso preso dal camino di casa, strada facendo si univa ad altri credenti e così via. Il gruppetto sempre più numeroso si avviava insieme con questo legno acceso verso la casa di incontro. Erano tempi di ristrettezza e miseria, anche la legna era scarsa, quindi un legno doveva bastare per far luce durante il cammino, possibilmente anche del ritorno. «La tua parola è una lampada al mio piede», dice il salmista. Infatti, il legno acceso si portava rivolto verso il basso per illuminare i passi. Spesso mi capitava di voler portare in mano il pezzo di legna e istintivamente lo portavo in una posizione più alta. E mia nonna mi faceva notare che così facendo non facevo luce. per vedere la strada. La luce fa fatta per portarla verso i piedi, mi diceva, per vedere dove stai camminando ed evitare pericoli. Stupenda questa descrizione riguardante la vita dei credenti di mezzo secolo e le contrarietà che dovevano subire da parte formalisti religiosi della religione cattolica romana. Ma il racconto prosegue. Al ritorno era lo stesso. Io gioivo di questa atmosfera, ho sempre trattenuto nel cuore quella sensazione di gioia, di unione, tanto da non fare capricci per essere presa in braccio anche se morivo dal sonno. Ero contenta di camminare con questo gruppo sparuto, provavo un senso di felicità. Crescendo, tante cose cambiarono non solo visibilmente nella società, ma impercettibilmente anche dentro di me e anche in chi era rimasto fedele. Lo slancio vitale, l'entusiasmo frizzante, il senso di unione si erano man mano affievolite fino anche a sparire. Tutto era diventato molto più semplice, ma allo stesso tempo più difficile perché era il momento della verifica, per capire quanto avevo costruito solidamente e quanto in maniera approssimativa, e la verifica mostrò subito il suo risultato. Era pur vero che ero attratta dalla parola e dal suo messaggio, ma contemporaneamente ero attratta anche dalla vita di tutti, dalla normalità della vita della gente. Mi piaceva ora vivere come gli altri, ma più cercavo di imitarli, e più mi accorgevo che per me non era possibile perché avevo conosciuto un'altra realtà, anzi avevo conosciuto la verità, che se da una parte fa liberi dall'altra è vincolante. La mia famiglia si era trasferita dal piccolo paese, in città per motivi di lavoro, e lì si sperava, come tanti, di trovare la soluzione alla miseria, che attanagliava le famiglie. La partenza per me non fu certo motivo di gioia, lasciare la casa della nonna. Il mio piccolo ma sicuro mondo mi dava tristezza, anche se ero ancora piccola. La mia nuova casa erano due stanze sotterranee, condivise con altri parenti e gli altri nonni. Tutto mi era estraneo e mi rendeva molto irrequieta, per questo ho mantenuto la nomea di bambina difficile, ma non riuscivo ad esprimere il mio disagio. Per affacciarmi sulla strada e vedere la luce, il giorno, dovevo salire un certo numero di gradini. E di lì guardavo la gente, giocavo sulla strada, ma non c'era più la porta della piccola comunità. C'era gente che io non conoscevo, ma che, poco per volta, entrava a far parte della mia nuova vita. Ho trascorso con loro un pezzo della mia strada e certamente fanno parte di me. Quello che seguì fu un periodo molto difficile sotto tutti gli aspetti. I progetti dei miei genitori non ebbero l'esito desiderato. Il lavoro non era sempre sicuro ed era mal pagato. Mamma era sempre molto preoccupata. Era, alla luce di oggi, depressa, non usciva mai di casa e quando lo faceva indossava un paio di occhiali neri da non vedente, tanto che molti pensavano che fosse cieca. Per ragioni di tempo dobbiamo interrompere qui la testimonianza di Anna e a risentirci alla prossima per prestare attenzione a quanto fosse assetata d'amore. Sete d'amore. 2. Spot. Sei stata oggetto di molestie o violenze sessuali? Sei una ragazza introversa, difficile? Hai bisogno d'amore e di sicurezza? Sto raccontando la testimonianza scritta di Anna, una credente che ha subito più volte molestie sessuali e infine ha avuto un drammatico matrimonio. In questa trasmissione leggiamo la sua infanzia, nella quale molto probabilmente ti rivedrai. Se mi ascolti su CRCFM, ne avrai un grande beneficio perché la verità libera sempre. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, che Dio benedica il vostro impegno nell'ascoltare la parola di Dio. Con il permesso dell'interessata, stiamo raccontando la testimonianza scritta da una credente di nome Anna in merito al suo tragico matrimonio terminato con la morte del marito. Abbiamo iniziato a leggere il racconto della sua infanzia perché si possano comprendere meglio i vari drammi che in seguito incontrerà nella vita. Siamo arrivati al momento in cui per ragioni economiche la sua famiglia dovette trasferirsi altrove, periodo durante il quale la mamma di Anna soffriva di depressione. Ecco come la bambina Anna viveva il dramma della madre. Forse anche qualche ascoltatrice si rivedrà in essa. Molto spesso, specialmente di notte, mia mamma stava male, diceva che stava per morire, che era ammalata di cuore. Io morivo dalla paura, correvo a perdi fiato a chiamare il medico condotto, che allora era reperibile a qualsiasi ora. Mentre correvo per strada, pregavo il Signore che guarisse mia madre, che tornando a casa la trovassi viva, promettevo tante cose, mi infliggevo punizioni, anche fisiche, per piegare la mano del Signore. Mio padre dov'era? Lui era sempre via per lavoro, partiva il lunedì mattina e tornava il venerdì sera o il sabato mattina. Dov'era mia sorella più grande di me di 10 anni? Rimaneva a casa con mamma e chiamava i vicini o i parenti. Per cui io dovevo correre dal medico e il più delle volte, oltre alla paura che mamma nel frattempo morisse, c'era la paura del buio, delle strade deserte, delle ombre che mi sembravano strane figure minacciose. Durante tutta la mia infanzia, e posso dire ancora oggi che ho accumulato diversi anni, ho sempre avuto paura dell'abbandono, della perdita delle persone care. Spesso mi capitava da bambina che mentre giocavo correvo in casa a vedere se mia madre c'era e, assicuratami, tornavo ai miei giochi. Oggi uso il telefonino per assicurarmi che le mie figlie stiano bene e che non sia successo loro nulla di male. Mi sono portata dietro questa paura, anche se mi accorgo che riesco a dominarla. I nonni e i parenti erano molto diversi. I loro interessi erano molto lontani da quelli ai quali ero abituata. Del Signore neanche l'ombra, e così, poco per volta anche per me, tutto quello che avevo vissuto prima di allora perse importanza, le mie giornate si conformavano a quelle degli altri bambini della famiglia e dei vicini. Il più del tempo lo passavo in strada a giocare ore, ore a fantasticare, a inventare giochi, non ero mai stanca. Poi la scuola, all'inizio di un periodo molto bello, mi sentivo grande, mi piaceva la mia maestra, le mie compagne. Ti sei immedesimata in Anna? Non ti abbattere, perché Cristo Gesù è più grande dei tuoi drammi. Quanto conforta e a volte quanto consola ascoltare come altri hanno vissuto la loro adolescenza. Chi di noi non avrebbe da dire qualcosa? Ma ascoltiamo ancora Anna. E qui, proprio a scuola, cominciano anche i primi problemi. Mia madre, insieme a mio padre e a mia sorella, qualche volta avevamo ripreso a frequentare le riunioni nella chiesa evangelica, nella città più vicina. Per me era un motivo di festa, non tanto per la partecipazione alle riunioni, quanto perché, nonostante pochissimi chilometri, il viaggio mi sembrava veramente un grande viaggio. La macchina presa in prestito dalla ditta dove mio padre lavorava, la città, i palazzi, le strade larghe, i negozi con le vetrine, tutto era così fiabesco e io, incollata al finestrino, fotografavo tutto con gli occhi e la mente e fantasticavo. Il nuovo locale di culto era molto diverso da quello del mio paese. Era un bel locale con sedie, un pulpito, una pianola, tante persone, un predicatore istruito, ma non avvertivo la stessa sensazione che provavo con la comunità del mio paese. Il fatto che frequentassimo una chiesa diversa, nonostante le precauzioni prese da mia madre, fece presto notizia e la gente cominciò a prendere le distanze. I miei non erano certo credenti convinti, erano piuttosto simpatizzanti, quindi per evitare disagi e disapprovazione diradarono la frequenza e, se frequentavano, lo facevano di nascosto, anche perché mia sorella era ormai una signorina. E certo, questa nostra diversità non giovava alla sua reputazione e ad un suo futuro matrimonio. Ma il danno era fatto. Le mie compagne di scuola e vicine di casa cominciarono ad allontanarmi, a non volermi più a casa loro. Con un mucchio di scuse mi evitavano, capivo il perché e, quasi per reazione, cominciai a frequentare la religione cattolica. Ero lì tutto il giorno. La mattina, prima di andare a scuola, passavo per la chiesa e lì mi fermavo per qualche minuto a pregare. Lo stesso facevo al mio rientro a casa. Il pomeriggio, terminati i compiti, correvo nell'oratorio della vicina chiesa e lì passavo tutto il mio tempo. Ero l'ultima ad andare via, chiudevo io la piccola porta di ferro. Era una presenzialista estrema, non c'era funzione alla quale io non partecipassi. Ero sempre insieme alle catechiste, al parroco, facevo piccoli servizi in sagrestia, suonavo le campane, divertendomi a dondolare, tanto che, nonostante la mia giovanissima età, il parroco mi diede l'incarico di fare il catechismo per la prima comunione a delle bambine zigane analfabete e che nessuno voleva nelle proprie classi, perché zingare, perché molto sporche, perché il loro odore era nauseante, lo ricordo ancora, ma questo non mi impediva di stare con loro, anzi, lo vivevo come un merito. Questa testimonianza mette in evidenza quanto sia devastante sentirsi soli, rifiutati e non amati. Il rifiuto verso la fede cristiana dei genitori, testimoniatoci da Anna, molto probabilmente lo vediamo realizzare intorno a noi, e forse anche in te che ascolti. Ricordo che il più profondo desiderio di Anna era quello di essere accettata, era quello di sentirsi amata, non quello di seguire Cristo. Il seguito del suo racconto lo rivela maggiormente. Anche in questo poi ci vidi la beffa, gli emarginati con gli emarginati, ma in quel momento ero molto fiera di me e come se dicessi a tutti, la mia famiglia è diversa, ma io no, io sono come voi. Ma tutto questo non servì a nulla, io ero sempre la diversa e da tenere a distanza, non ero una persona per bene e tantomeno la mia famiglia. Oltre a questi disagi sperimentai anche un inizio di violenza fisica da parte di un mio parente che aveva figli miei coetanei. Ringrazio il Signore per la protezione che mi ha dato, non mi piace dire che istintivamente agivo in una certa maniera, come ogni volta che ci provava ad allontanarmi, a non restare da sola con lui, sono fermamente convinta che non fosse il mio buon senso, ma che il Signore mi guidasse a comportarmi così. La cosa tragica è che i miei spesso mi affidavano a questa persona quando avevano impegni e molto spesso era lui ad offrirsi per badare a me e ai suoi figli. Ero terrorizzata, ci portava con la macchina in campagna in posti isolati. E con una scusa cercava sempre di allontanare i suoi figli per restare con me. Ma sistematicamente io scappavo. Era terribile quella sensazione di essere braccata, e soprattutto la certezza di sapere che se avessi detto qualcosa, nessuno, neanche i miei, mi avrebbero creduta. Era una situazione paradossale e tragica. E andata avanti così per anni, ma il Signore è stato sempre il mio difensore. Quando poi da adulta mi è capitato di vedere questo parente, spesso mi sono chiesta se ricordava quello che aveva cercato di farmi. Io ricordavo benissimo. Avevo sviluppato un carattere molto introverso, parlavo poco, mi nascondevo, ero una specie di selvaggia. Le stradine d'estate assolate, silenziose durante il pomeriggio, piene di rumori e colori nelle altre ore, mi piacevano tanto. Io non riuscivo a camminare con la testa alta in mezzo alla gente. Camminavo rasentando i muri e alla testa bassa, se incontravo qualcuno che conoscevo e che dovevo salutare, il battito del mio cuore impazziva dall'agitazione e non riuscivo a spiccicare. Parola, e questo mi rendeva ancora più diversa e da evitare. Io conoscevo il mio disagio, volevo superarlo, ma non ci riuscivo. Ogni volta mi proponevo che la prossima volta avrei salutato tranquillamente, perché poi non c'era niente di cui vergognarmi. Le cose non sono cambiate. Anche oggi ci sono dei maniaci sessuali, anche oggi molti giovani portano il segno dei loro complessi e purtroppo sono molto di più di quelli che vediamo. Se tu ti ritrovi in Anna, se non sei libero nelle tue espressioni e nei tuoi sentimenti, ascolta attentamente anche il seguito di questa testimonianza e proponiti ad ascoltare anche le prossime trasmissioni perché sono per te. Ascoltiamo dunque. Ma la cosa si ripeteva inevitabilmente. Ero come una fuggiasca, sempre ritrosa, di pochissime parole e con mille complessi. Quando mi fermavo in chiesa per pregare, esprimevo tutto questo al crocifisso che avevo davanti e gli chiedevo di aiutarmi, perché ero triste, ma nessuno sembrava darmi udienza. Così trascorsero gli anni della mia infanzia, in mezzo a povertà, disagi, rinunce. Aiutavo quando potevo la mia famiglia lavorando al ritorno da scuola. Si lavorava in uno dei tanti capannoni dove si separavano le bucce dal frutto delle mandorle, un lavoro faticoso ma che a me piaceva perché facevo la gara con le mie amiche a chi era più svelta e poi poter essere utile, seppure per poco mi dava l'impressione che i miei mi avrebbero voluto più bene. L'emarginazione di cui ero oggetto mi faceva soffrire molto e per questo man mano ho nutrito una certa avversione per tutto ciò che non era cattolico, anche per i miei che nel frattempo stavano decidendo di trasferirsi in un'altra città dove vivevano le sorelle di mia madre. La nonna intanto era morta. Nell'attesa di una sistemazione definitiva, i miei decisero che io sarei rimasto a casa delle zie. Sarebbero venuti a trovarmi ogni volta che avrebbero potuto perché non c'erano mezzi economici. Né macchina, i collegamenti stradali erano difficoltosi. Mi dissero che il periodo di permanenza sarebbe stato solo di pochi mesi, ma è andato avanti quasi fino a quando mi sono sposata, il tempo necessario per dare una mano a mia zia che come lavoro conduceva un piccolo pensionato per lavoratori e studenti. Al momento la cosa mi entusiasmò alquanto. Nuova vita, nuove amicizie. Tutto da capo, conservando un certo anonimato su quelle che potevano essere le scelte religiose dei miei familiari, anche se non proprio globali. Il desiderio di essere come gli altri ha portato Anna a rifiutare tutto ciò che non era cattolico, e perciò anche la fede cristiana dei genitori. Quante persone si comportano così? Quante persone sarebbero disposte a vivere tra i cristiani se non fosse che si sentono derisi? Caro ascoltatore, se tu sei uno di questi, con un atto di forte volontà rifiuta una religione che non serve a nulla per porre fede in Cristo e seguire soltanto la sua volontà espressa nella parola di Dio. Una nuova vita di gioia e pace ti aspetta anche se, come disse Gesù, incontrerai delle opposizioni. Ma è meglio trovare opposizioni essendo in Gesù Cristo che essere in pace con il diavolo. Ti saluto affettuosamente e ti aspetto per sentire ancora la seppur drammatica, anche bellissima testimonianza di Anna, perché ha un lieto fine. Molestie sessuali. 3. Ascoltiamo su CRCFM la drammatica testimonianza di Anna, la quale racconta delle molestie sessuali più volte subite, di quanto fin da piccola desiderasse essere amata ed accettata a tutti i costi, e come sia arrivata a conoscere Cristo. Non perdere nessuna di queste trasmissioni. Invita altri all'ascolto perché non sono solo parole imparate sui banchi di scuola, ma vita vissuta. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, benvenuti al nostro appuntamento. Anche in questa terza trasmissione leggeremo la testimonianza di Anna, una donna credente che racconta la drammatica storia sia della sua gioventù sia del suo matrimonio. Abbiamo iniziato raccontando della sua adolescenza costeggiata dalle prime molestie sessuali, del suo rifiuto verso la fede cristiana dei suoi genitori, mentre oggi ascoltiamo di altri abusi sessuali che ha dovuto subire e l'episodio della sua conversione a Cristo. Dunque, essendo andata ad abitare in paese nuovo, Anna pensava di avere raggiunto il suo scopo di lasciare Cristo fuori dalla sua vita. Ma Dio, che è sempre all'opera, sa come fare. Ecco il suo racconto. Ora potevo cominciare tutto da capo, ero una sconosciuta per tutti e volevo e potevo mostrare solo quello che avrei creduto meglio per me e per essere apprezzata ed accettata, una nuova occasione. Il passato, la vergogna alle spalle. Questo è quello che io credevo e così fu almeno per qualche tempo. Intanto feci il trasferimento di scuola a metà anno, e certamente non fu una cosa facile. L'anno era già iniziato da alcuni mesi, c'erano gli esami di terza media alla fine dell'anno. Non conoscevo i professori, i miei compagni di classe, ma la voglia di cambiare vita era troppo forte per lasciarmi intimidire da tutto questo. Ero una studentessa diligente, studiosa. Le difficoltà non mancavano, ma erano superabili. Le prime amicizie cominciarono a rendermi le giornate meno solitarie. Una di queste amiche era anche una mia vicina di casa, e con lei cominciai una bella e gioiosa amicizia. Una grossa complicità, tante ore trascorse a parlare, un po' meno a studiare. Di tutto quello che poteva essere interessante per una ragazzina di 13 anni. Arrivarono anche i primi corteggiamenti che, anche se mi facevano arrossire, nel contempo mi facevano molto piacere. Sguardi, bigliettini, risatine, qualche scambio di parole, era il tutto, ma queste cose mi davano un bel senso di sicurezza. Mi sentivo finalmente come le altre, ma certamente non ero come le altre. E cercavo di tenere molto a bada questo pensiero. Io avevo lo stesso diritto di vivere la mia giovinezza, come tutte le ragazze della mia età. Il Signore e la Chiesa erano cose che potevano aspettare, che riguardavano soprattutto le persone di una certa età. Poi non facevo nulla di male. Volevo avere la mia età, e nella mia età il Signore era fuori tempo. Poi, Un giorno, anche a 16 anni, il Signore decide di presentarsi. È proprio vero che quando si è giovani sembra che il Signore e la Chiesa possano aspettare, che Cristo sia fuori tempo, ma quando Dio chiama occorre rispondere positivamente. Se tu hai subito molestie sessuali, ascolta ora attentamente la testimonianza di Anna. Mi sorprende ricordare che anche qui in tempi diversi ho subito altri tentativi di violenza prima a scuola. Poi nell'ambito familiare a farlo sono state sempre persone insospettabili. Avevo seppellito i ricordi dolorosi dell'esperienza precedente, ma all'improvviso tutto si ripete e nella maniera più assurda. L'insegnante di applicazione tecnica, una zitella bigotta che trascorreva le sue giornate in chiesa, poi capì il perché, invitava spesso le ragazze della mia classe e delle altre classi dove era docente in un convento della città per gli esercizi spirituali e per poter parlare con un sacerdote che era pronto a dare consigli ai giovani. Ne conobbi anche un altro di sacerdote che aveva la stessa inclinazione ad aiutare ragazze e che usò anche nei miei riguardi attenzioni quando ero già convertita e si cercava di organizzare incontri ecumenici. Chi accettava gli inviti della prof godeva di una certa immunità e anche di privilegi. Arrivò anche il mio turno e quello della mia migliore amica. Per diverse volte ci avvicinò, fu facile per lei carpire la nostra fiducia, era la nostra prof. C'erano in giro un po' di voci strane, ma non ci avevamo fatto molto caso. Ci fissò l'appuntamento con il sacerdote, e qui i ricordi si fanno molto confusi. Aspettammo in una piccola anticamera, dopo aver salito tantissime scale. Poi questo sacerdote, che per me in questo momento è senza volto, non lo ricordo, comincia a farci delle domande prima generiche, poi sempre più personali ed intime, poi ci invita ad andare nel suo ufficio, prima la mia amica e poi io. Non ricordo molto, ricordo le sensazioni, il viso e l'atteggiamento minaccioso della prof. Perché a un certo punto del colloquio volevamo andare via. La porta chiusa a chiave, un senso di trappola. Ricordo bene che ho realizzato di essere in pericolo e ho pensato a mia madre, che non sapeva dove mi trovavo per venirmi a cercare. Avevo veramente paura, anche la mia amica. Quasi costrette, accettammo l'incontro. La mia amica venne fuori dal colloquio sconvolta e mi disse a bassa voce di non andarci, ma di cercare di andare subito a casa. Non sapevamo come fare, abbiamo cominciato ad alzare la voce, perché volevamo andare via, e così, correndo per una infinità di corridoi e scale, uscimmo da una porta diversa da quella da dove eravamo entrate. Scampato il pericolo e finalmente in strada, la mia amica mi fece alcune confidenze, ma tutto si era risolto nel migliore dei modi. Io ribadisco, grazie a Dio. Il rientro a scuola con la prof ebbe i suoi risultati. Eravamo sottoposte ad ogni specie di angherie, ma non abbiamo mai avuto il coraggio di parlare. Chi avrebbe creduto a due ragazzine? La prof era inattaccabile. Dobbiamo ringraziare Dio perché Egli conosce a fondo tutti i nostri drammi ed Egli sa intervenire al momento opportuno. Ascoltiamo. Questo episodio portò nella mia mente tante false convinzioni, che ero una persona sporca, poco seria. Ma ero consapevole che non avevo fatto niente che potesse solo incoraggiare seppure il pensiero di queste persone. Mi sentivo colpevole e contemporaneamente sentivo il desiderio di Dio di essere accolta da Lui, di essere protetta. Avevo il bisogno di diventare figlia, di appartenergli. Cominciai, all'insaputa di tutti, a leggere saltuariamente la Bibbia e a pregare come facevano gli evangelici. Dicevo al Signore quello che avevo nel cuore e in mente e poi ci mettevo anche le preghiere che conoscevo. Molto presente era in me un senso di dicotomia. Da un lato era la persona normale, che viveva la sua vita apparentemente normale, fatta di piccole cose, e dall'altra la realtà della mia famiglia, dove le cose erano un po' diverse. Intanto c'era la presenza abbastanza frequente di fratelli e sorelle della comunità che le mie zie frequentavano in casa per pregare o leggere la Bibbia. Gente anche qui poco colta, anzi direi la maggior parte analfabeta, ma con una grande spontaneità che a volte mi imbarazzava. La presenza fisica o anche solo morale di queste persone mi ricordava la mia infanzia. Le riunioni nella piccola comunità del mio paese mi portava a mente una responsabilità che io avevo perché conoscevo la realtà della parola di Dio, per quanto non volessi io sapevo, e questo era un grosso problema per me. Spesso mi dicevo, non è così necessario che io esprima esternamente la mia conoscenza, tanto Dio è sempre lo stesso per tutti. La parola che si predica è la stessa, è solo questione di forma, qui forse un po' più spontanea, perché più giovane come forma religiosa, ma per il resto tutto è uguale. Certamente meno, pensavo meno. La religione cattolica avrà ragione perché sì, è tanta gente colta, tanti teologi e non possono sbagliare. Fra gli evangelici sì, è solo spontaneità, ma non certo conoscenza. Ero consapevole che me la volevo raccontare, ma che in effetti non era così, era una cosa molto profonda di importanza vitale, della quale non capivo la portata. Avevo l'impressione di essere marchiata e più mi sentivo così, più cercavo di vivere come gli altri, dagli interessi ai divertimenti, per la verità molto ridicoli, se li confronto a quelli di oggi, e anche alla scelta religiosa. Mi consideravo una persona a modo e pertanto da brava ragazza frequentavo la chiesa e tutto quello che gravitava attorno ad essa. Un impegno serio, molto serio, tanto da farmi apparire anche antipatica agli occhi degli altri ragazzi. Ma io volevo convincere tutti che se anche un giorno fossero venuti a conoscenza delle scelte della mia famiglia, io non c'entravo, anzi ero contraria, e infatti in casa cominciarono le polemiche con chi voleva evangelizzarmi e convincermi degli errori dottrinali della religione cattolica. La mia conoscenza biblica non era certo profonda, anzi non avevo letto quasi nulla, ascoltavo i brani della parola, solo durante le funzioni, per il resto recitavo preghiere, rosari, facevo fioretti, rinunce. Sperando che questo mi avrebbe fatto bene e mi avrebbe messa in buona luce agli occhi delle persone che frequentavo. Questo senso di sentirsi diverso in un paese che si definisce cristiano non dovrebbe esistere. Ma evidentemente di cristiano nella società nella quale viviamo non c'è quasi niente. Così, Anna continua il suo racconto. Fu organizzato un incontro con diverse scuole in un convento e per l'occasione ci fu uno spettacolo con una recita. Durante le prove conobbi un sacerdote che coordinava il programma e, come giovane, cercai da lui alcune spiegazioni per quanto riguardava le differenze tra gli evangelici e i cattolici. Gli incontri furono tantissimi, ma in nessuno di questi mi fu imposto o fui invitata a tenermi lontana da queste persone così diverse, anzi in un incontro, credo proprio l'ultimo, questo sacerdote mi invitò ad andare avanti nella mia ricerca e mi disse che se avesse potuto lo avrebbe fatto anche lui. Ma la sua posizione non glielo permetteva. Quel discorso fu a dir poco scioccante. Ne parlai con la mia amica, ma non mi credette. Secondo lei avevo esagerato, ma le cose stavo proprio così. Quello fu uno dei primi mattoni che misi insieme per arrivare ad una mia scelta personale. Della mia scelta di diventare figlia di Dio la feci un giovedì sera, durante un incontro di preghiera a casa di un credente, perché allora non c'era ancora un locale di culto. Ricordo molto bene la sensazione che precedette quella sera, ero in attesa che accadesse qualcosa, sapevo che ero arrivata ad una svolta, desideravo dare la mia vita al Signore, ma non volevo ammetterlo. Il mio orgoglio mi impediva di chiedere ai miei familiari di andare alla riunione insieme, ma il Signore ci pensò. Un fratello di una piccola comunità di un paese vicino, quella sera venne a casa nostra. Quella sera, come faceva spesso prima della riunione, passò da casa mia per vedere chi andava alla riunione di preghiera e invitò anche me. Io accettai subito perché era quello che stavo aspettando, ma i miei, che mi avevano continuamente incoraggiato a frequentare le riunioni, quella sera si opposero, perché secondo loro sarei rimasta scandalizzata dal fatto che erano in pochi anziani, non c'era nessuna giovane, non si cantava con strumenti, mentre la domenica era un po' diversa, perché venivano fratelli dei paesi limitrofi per incoraggiarci. Ma io quella sera sapevo di andare ad un incontro da tempo atteso e così feci. Durante la preghiera vedevo tutta la mia vita, situazioni, atteggiamenti, decisioni che non avrei dovuto fare, sentivo nel cuore un peso, un senso di oppressione e con la voglia di essere alleggerita da questo masso cominciai a parlare con il Signore. Gli dissi che volevo vivere con lui e per lui, che sentivo una gran tristezza nel mio cuore. Per essere stata lontana da lui, gli chiesi di perdonarmi, gli dissi che lo riconoscevo nel suo sacrificio sulla croce come l'unico mezzo per essere salvata, e volevo che lui fosse il padrone della mia vita. Mi alzai da quella preghiera con una sensazione di libertà, di leggerezza. Avevo cominciato il mio cammino con lui, mi sembrava tutto facile e piacevole, e non sapevo quello che dicevo quando, presa dall'entusiasmo, facevo promesse e prendevo impegni. Mi sembrava logico e naturale. Da allora i miei giorni sono trascorsi in una maniera che non avevo assolutamente previsto. E con questa bellissima scelta di Anna terminiamo la trasmissione di oggi. Vi attendo numerosi alla prossima puntata per udire anche del suo drammatico fidanzamento e del tempestoso matrimonio fallito. Ciao a tutti. L'innamoramento 4. Spot. Quando si è innamorati non si ascolta niente e nessuno, e quello che si sente sembra essere una voce di Dio. Eppure, quanti matrimoni sono falliti, come quello di Anna, la cui testimonianza sentiremo su CRCFM. Ascoltami ed invita altri ad ascoltarmi, perché non sempre si ha occasione di sentire parole così sincere e franche. Parole che possono aiutarti a vivere un buon fidanzamento e un matrimonio conveniente. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, che Dio benedica il vostro impegno nell'ascoltare la parola di Dio. Con il permesso dell'interessata, stiamo raccontando la drammatica testimonianza scritta da una credente di nome Anna in merito alla sua travagliata adolescenza e al tragico matrimonio, terminato con la morte del marito, per dimostrare che non è sufficiente essere credenti o figli di Dio per avere un'unione soddisfacente per ambedue gli sposi e anche per mettere in luce drammi, tensioni e ribellioni che anche i credenti sperimentano nei confronti di Dio nonostante la fede in Lui. Abbiamo già letto la testimonianza di Anna in merito alla sua tormentata infanzia, quando per ragioni economiche la sua famiglia dovette trasferirsi altrove, quando con tutte le sue forze voleva rifiutare la fede cristiana dei genitori. In seguito Anna va a Parma per laurearsi e in quella città del nord si forma una comunità di cristiani che Anna frequenta con gioia. E proprio in quel periodo conosce il ragazzo che diventerà il suo sposo. Ecco il racconto. Nel frattempo entrano a far parte della giovane comunità un gruppo di giovani, la maggior parte universitari, che si erano convertiti per la testimonianza di un giovane fratello. È una ventata di aria fresca. E fra questi ci è la persona che un giorno sarebbe diventata mio marito. Allora nella mia vita sentimentale c'era una persona molto innamorata di me, ma non io di lui. La sua presenza mi faceva sentire meno sola, lontana da casa. E poi ero stupita che una persona si fosse accorta di me e che mi circondasse di tante attenzioni. Mi piaceva questo, non lui, anche se la cosa poteva sembrare strana visto che era corteggiatissimo. Avevo la certezza che quella persona non sarebbe stata per la vita, non lo volevo accettare, ma era così. A posteriori posso dire che la mia vita con lui sarebbe stata molto più tranquilla, ma tutto è andato diversamente. I casi della vita sono strani. Domenica sera al ritorno da Firenze, da una visita a mia sorella, mia zia mi riferisce della presenza di questi ragazzi nella comunità, che oltre ad essere bravi ragazzi erano anche del nord. Cosa? Stranissima, eravamo tutti immigrati dal sud. Una strana sensazione mi assale. Ho avuto in quel momento la certezza che a uno di questi avrei legata la mia vita. Che assurdità! Ricordo che questo pensiero non mi fece dormire. Avevo paura e nello stesso tempo vergogna di questi pensieri. Alla luce della ragione avevo un ragazzo, queste persone non sapevo chi fossero, se erano legati sentimentalmente, ma uno strano pensiero mi inquietava ed era un chiodo fisso fino alla sera della riunione dove per la prima volta li conosco personalmente. Era come se dovessi andare ad un appuntamento già preparato. Fui colpita da uno di questi per il suo fare pacato, le poche parole, la gentilezza dei modi e il linguaggio colto. Ero attratta da quel ragazzo dallo sguardo scrutatore, dagli occhi profondi, penetranti, parlanti, ma aveva una fedina o fede al dito, non vedevo bene. All'anulare sinistro. La descrizione dell'innamoramento di Anna è veramente stupenda. Mi dicevo, Anna, hai perso il ben dell'intelletto, non puoi pensare in questa maniera ad una persona sconosciuta e per lo più impegnata. Che assurdità, cercavo di scacciare questi pensieri il più velocemente possibile, ma erano una sofferenza. Dopo seppi che anche lui ebbe i miei stessi pensieri, fu subito attratto da me, nonostante innamoratissimo della sua allora attuale ragazza. I primi sguardi furtivi, i primi scambi di parole, in maniera quasi intercettibile, ci troviamo a stare sempre più insieme, a parlare, parlare, a parlare, a diventare sempre più complici. Sono attratta dal suo modo di essere gentile, affettuoso, composto, tenero, molto tenero, capace di far diventare favola anche un minuscolo sasso raccolto per strada dove ci siamo fermati per la prima volta, quando mi ha accompagnato a casa. Tutto si trasforma in favola fra di noi, il linguaggio, le cose ordinarie si rivestono di magia, un mondo fantastico il nostro si impadronisce di noi, gli altri non esistono più, ci siamo solo noi e non vediamo l'ora di stare insieme. I contatti con la realtà sono solo quelli necessari e poi ci siamo noi due, il vero mondo. Dalla finestra della nostra fantasia osserviamo, guardiamo con gli occhi velati di sogni. Tutto questo mi fa impazzire di felicità. Mi attira, ma mi fa anche paura. Mi dico di non essere sciocca, di godermi questa bella felicità. Cerco di autoconvincermi che tutto è vero e sarà per sempre. Ma ho bisogno anche di normalità, della vita di tutti i giorni, anche della banalità. Mi sento sballottata fra la vita che mi tira per un braccio e lui che mi promette la favola. Cedo a lui, almeno all'inizio, e con la giustificazione che se sentivo disagio era solo perché non ero capace di provare sentimenti, di vivere fino in fondo un sogno, ero sbagliata e soprattutto irriconoscente verso di lui e verso il Signore. In casa mia i sentimenti e le sue manifestazioni erano stati sempre al bando, non si dovevano mostrare i sentimenti. Mi faccio violenza e cerco di adeguarmi sempre più al suo mondo, che è molto diverso dal mio. Inizia la nostra storia d'amore, una storia particolare, semplicemente perché era nostra, una storia bella, pulita, intensa. Il suo corteggiamento è discreto ma insistente, usa mille modi per comunicarmi i suoi sentimenti. Fra noi due chi è più espansivo è lui, io resto in una posizione di difesa, questo per quanto riguarda i primi tempi. Poi tra di noi nasce una stretta complicità, l'amore cresce, tentiamo di capirci, tutto ha una bella dimensione. Lui mi piace sempre di più per la sua gentilezza, per la sua tenerezza, per la sua intelligenza, è un ragazzo molto colto, conosce ogni tipo di argomento. Legge di tutto, io pendo dalle sue labbra, mi piace ascoltarlo, passo ore ad ascoltare la sua voce. Ha una bella voce. Con lui imparo tutto, con lui ci è la prima volta in tutto, e per la prima volta leggo Linus Topolino, gli hot dog, le cornamuse, i colori dei clan scozzesi, la storia d'Inghilterra, la storia della Marina. Imparo a frequentare persone colte, mi fa conoscere alcuni suoi docenti con i quali era in rapporti di amicizia, ascoltiamo musica classica ma anche colonne sonore, imparo ad andare al cinema, a scegliere con lui film da vedere ed un'infinità di altre cose, poco per volta mi costruisce, a lui piace questa situazione perché ha l'impressione di essere indispensabile per me, ma non è esattamente così, perché se da una parte mi adeguo, dall'altra sviluppo. Ognuno di noi due gioca con l'altro, questo lo dico a distanza di 30 anni, e con il senno del poi. A lui piace fare il pigmalione, a me piace essere amata, corteggiata semplicemente perché ero io. Una forma smisurata di egocentrismo ed egoismo, era come se mi dicessi che non avrebbe potuto desiderare una persona diversa da me, perché ero in grado di farlo felice. Giochi molto sottili. A lui ho delegato tutto, io volevo solo ricevere, mi vergogno della mia stupidità, per mandare avanti. Il nostro rapporto era sufficiente che lui mi amasse e me lo dimostrasse. Trascorriamo insieme molto tempo, anche perché abitiamo nello stesso palazzo, ci parliamo, facciamo progetti, ci scambiamo pareri sull'università, la mattina andiamo a lezione insieme, torniamo insieme, ci aiutiamo a preparare gli esami, lui mi ascolta prima di un mio esame ed io faccio altrettanto con lui. Con lui Imparo ad amare il mare d'inverno, la montagna con i suoi silenzi, gli spazi, la passione per il modellismo. Tante sere le trascorriamo a costruire velieri, io divento la compagna del capitano Nemo. Mentre lavoriamo, inventiamo storie sul Nautilus con noi due come protagonisti. Ogni tanto la voce di sua madre o della mia, a seconda dove ci fermavamo, ci portano alla realtà. Con la sua tenerezza mi spiazza, mi innamoro sempre di più, e in maniera quasi morbosa. Era questo che volevo dall'uomo con il quale avrei diviso la vita. Volevo tenerezza, dimostrazioni di affetto, essere rassicurata di essere amata solamente perché ero io e che nessuno avrebbe potuto sostituirmi. Trascorro 4 anni dal giorno che lui molto romanticamente ed in un posto altrettanto romantico un'isola mi fece la dichiarazione. Dopo 4 anni, nello stesso giorno del nostro fidanzamento, ci sposiamo. La conclusione naturale della nostra storia era il matrimonio. Era l'unico modo di poter stare sempre insieme. Io studiavo ancora, lui appena conseguita la laurea. Aveva trovato lavoro, ma non ci lasciamo scoraggiare delle possibili difficoltà che incontreremo. Dall'inizio dell'anno ci facciamo un calendario fino al giorno delle nozze ed ogni sera quando ci troviamo sbarriamo una casella, siamo già in preparativi, ci guardiamo attorno per un appartamento, non vogliamo stare con i genitori, lo troviamo a 100 metri dalla casa dei miei e dei suoi. Ci sembra un segno del favore del Signore. Nelle nostre uscite ci informiamo per i preparativi. Curiamo ogni piccolo dettaglio della cerimonia. Io voglio i fior di loto in sala ed è quasi impossibile trovarli. Ma lui ci riesce, li trova a Mantova. La sera usciamo, lui mi porta sulla canna della sua bici. Non avevamo ancora la macchina. Andiamo nel nostro solito posto, sulla nostra solita panchina. Contiamo i giorni che ci separano dal nostro matrimonio. Parliamo per ore. Tutto è bello, romantico, lui è pieno di attenzioni, ma io ho paura. Strano, avverto paura. Perché? Cerco di convincermi che non ho nessun motivo di avere paura. Lui è l'uomo che amo e lui ama me. In una maniera meravigliosa. Ogni mattina sotto lo zerbino della mia porta di casa trovo un bigliettino con parole d'amore. Li conservo tutti. Arrivano fiori senza una ricorrenza particolare. Tante altre cose tenere. Cari ascoltatori, io non so la vostra reazione di fronte a questa testimonianza, ma sembra incredibile che Anna in seguito faccia con una terrificante onestà le seguenti riflessioni. Alla luce delle esperienze passate, devo rivedere alcune mie affermazioni e convinzioni, per fare chiarezza nella mia vita e imparare a dare un senso a me stessa e di conseguenza alle mie figlie. Non posso permettermi di crogiolarmi nelle mie pseudo-convinzioni e non condividere con le mie figlie la ricerca dei sentimenti, di dare un giusto significato alle affermazioni, a saper usare l'onestà come arma di autodifesa. Non era l'uomo che amavo, era l'uomo che doveva amarmi e essere all'altezza delle mie aspettative. A lui avevo addossato il compito di non deludermi, di non essere come mio padre. A lui chiedevo tutto quello che non avevo avuto. Gli avevo addossato un bel fardello, era il mio trofeo. Era la sua prova d'amore. Non capivo che lui aveva bisogno quanto me come me delle stesse cose. Ma questo problema non mi sfiorava neanche il pensiero. Oggi, questo mi rende molto triste e mi addolora, pensando a quanto lo abbia lasciato solo, a quanto non l'abbia capito, a quanto avrà sofferto, a quanta amarezza e delusione avrà accumulato negli anni del nostro matrimonio. L'amore non è un dato di fatto, non è scontato, una formula matematica. È molto delicato, ha bisogno di cure, di abnegazione, di rispetto, di accoglienza, di longanimità. Oggi posso dire che è molto difficile amare. Spesso si confonde l'amore con altri sentimenti che ne costituiscono alcune sfaccettature, ma probabilmente non conosco neanche il significato della parola amore. La uso impropriamente, la scambio per passione, attrazione, ammirazione, simpatia. E quant'altro, se allora avessi capito questo, ci saremmo evitati tante sofferenze. Amavo me, era il mio narcisismo che andava soddisfatto, e lui meglio di chiunque altro poteva soddisfarlo. Non amavo per amare, non mi affaticavo per il suo bene, disinteressatamente. L'ho capito molto tempo dopo, quando lui non c'era più. Ma spesso si parla, anche nei sentimenti, per sentito dire, Ricalchi la tua vita sull'immagine che ti è stata insegnata e consegnata e così la iberni in una situazione. E ti aspetti che per essere vera deve essere necessariamente come tu l'immaginavi. Non ho parole. Quando si è fidanzati e innamorati sembra proprio di possedere in modo divino la verità, sembra di essere padroni della felicità e degli eventi della vita, ma purtroppo Anna ha già annunciato in poche parole ciò che sarebbe successo, se questo servisse per coloro che sono immensamente innamorati e non ascoltano niente e nessuno. Anna si è resa conto di amare se stessa e di usare il marito perché soddisfacesse il suo egoismo, e questo solo dopo che suo marito era morto. Possibile che si debbano vedere certi errori solo quando è tardi? Purtroppo ognuno di noi crede di non sbagliare, e per questo sono pochi gli sposi che hanno il coraggio di mettersi in discussione. E così anche Anna credeva di non sbagliare, anche se aveva un certo presentimento, cosa che vedremo nella prossima trasmissione. Ciao a tutti. Il matrimonio. 5. Spot. Vuoi sentire l'onesta testimonianza di una sposa cristiana che riconosce di aver fallito nel suo matrimonio? Su CRCFM ascolteremo ancora la testimonianza di Anna, allo scopo di aiutare tutte le mogli a non commettere il suo errore. E dato che l'argomento è più che attuale, incoraggia caldamente altri ad ascoltarla. Ti ringrazieranno. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, è una gioia per me incontrarvi di nuovo. Continuiamo oggi la lettura della testimonianza di Anna, una donna credente che ha trascorso un'adolescenza travagliata, dove non sono mancate le molestie sessuali, e che da adulta ha sperimentato un drammatico matrimonio terminato con la morte del marito. Abbiamo già preso in esame le paure e le gioie che l'accompagnavano durante il fidanzamento. Ora Anna ci racconta il periodo iniziale del suo matrimonio. Quando decidemmo di sposarci, avevo paura. Nasce un periodo di litigi, tensioni che sono sempre io a provocare. Lui cerca sempre di rassicurarmi. Arrivo alla determinazione di voler rinunciare a tutto. Disdico tutto, anche se ogni cosa è pronta. Lui va in crisi. La situazione è molto imbarazzante per le famiglie, per cui rientro nella ragione e accetto di sposarlo. Tutto sommato mi sento felice ed impaziente. Arriva il grande giorno e questa è la favola dell'amore immenso. Cosa mi aspettavo? Cosa volevo? Mi accorgo di essere molto più fragile di quello che credevo. Ora un estraneo entra a far parte di me. E troppo per me. Ma lui sa sempre come fare. Ha un modo tutto suo per rassicurarmi. Mi accoglie sempre. Mi aspettavo fuochi d'artificio, coinvolgimento totale. Ma sono presente, maledettamente presente, e desidero più di ogni altra cosa che lui riesca a portarmi nell'isola del Capitano Nemo, ma i miei piedi sono incollati a terra, la testa è ben salda, come un periscopio che perlustra tutto. Non sono felice come avevo immaginato, ma la colpa è mia, e cerco di inventarmi una parte di chi è capace di estraniarsi. Mi riesce facile in presenza di altri. Ma da sola, è una fatica erculea. Non riesco a superare la mia prova. Spesso sono insoddisfatta e pretendo da lui tanto. Lui cerca sempre di essere comprensivo, di aiutarmi, ma non è facile. Mi ricopre di attenzioni, di amore. A volte sono euforica, altre sono triste, anche se cerco di non fargli pesare la cosa. A volte mento spudoratamente, ma mi conosce troppo bene per non capire. Comincia a diventare geloso, crede che io abbia un altro e che non lo ami. Mille volte mi chiede se lo amo. Mi telefona infinità di volte dall'ufficio appena può passa da casa, spesso con un regalo. Quando sa che ci sono? Assurdo! Compriamo cretinate, tante cose inutili, ma non serve a niente se non a ridurre le nostre entrate. Il momento dell'acquisto è l'unica soddisfazione, poi ci è l'insoddisfazione, la paura, il disagio di aver fatto qualcosa che non va. Inizio vita sballato. Non riusciamo a metterla sui binari del buon senso, dell'equilibrio. Diventiamo noti fra gli amici per gli eccessi, per l'estrosità. E a me manca terribilmente la normalità. Il dramma che sta raccontando Anna non è isolato. Quante spose arrivano al matrimonio euforicamente felici, anche se di dentro pervade una inspiegabile paura. Forse tutto è normale, perché il futuro è sempre incognito e l'incognito si sa non la serena. Così Anna. Con una lucidità spaventosa continua il suo racconto, racconto che spero sia seguito attentamente da ogni donna. Facciamo progetti, lavoriamo per questo, ma ci è tanta precarietà, sono spaventata perché avverto insicurezza. E bravissimo a fare il mio peluche, ma ora non sarà sicurami come io vorrei. Probabilmente anche lui è spiazzato, si aspettava dell'altro dal nostro rapporto, ma io sono sorda e cieca. Si fa sempre più strada nella mia mente che non ha scheletro, è come mio padre che aveva l'aggravante di non essere neanche un peluche ma una gelatina, appunto. Vuoi vedere che ho fatto il bis? E allora tiro fuori la mia scorza dura per arginare, secondo me, questi avvenimenti. Sono in grado di far valere il mio carattere tosto e mi sostituisco a lui. Lui non protesta, a me dispiace molto. Avrei voluto che mi avesse tenuto testa, ma lo avevo sfibrato, probabilmente. Non è facile vivere con una persona come me. È un torneo ogni volta, come mi diceva mio marito, per questo fra i tanti nomignoli. Mi chiamava Ginevra, diceva che con me era obbligato sempre a convocare i cavalieri della tavola rotonda. Ora mi accorgo che questo mio atteggiamento di prevaricazione quasi gli fa comodo ed usa questo atteggiamento a seconda delle situazioni. Ho sbagliato la vita. È una tragedia. Sono disfattista? Non so, so solo che tutto è approssimativo e non ho nessun punto fermo. Non posso contare ora neanche sulla sua sincerità. Sfugge come un'anguilla, si sottrae ai suoi compiti, la favola è diventata dramma. Ma lui è indispensabile per me, la mia vita. Vorrei essere più serena, comprensiva, alcune volte lo sono, altre no. Lui però non smette di farmi sentire il suo amore. Ha un modo tutto suo per parlarmi, per esprimere i suoi pensieri. Mi bastano anche solo i suoi sguardi quando mi sento persa e lo cerco. Sono qui. Lui è sempre lì, anche quando abbiamo avuto momenti tremendi. Trascorrono diversi anni del nostro matrimonio, accomunati da questo amore vissuto intensamente. Sono felice di averlo vicino. Lui ci è sempre. Io sono capricciosa, infantile, mi comporto in maniera immatura. Voglio prove di sicurezza, certezza da parte sua. Ma cosa mi poteva dare, se anche lui stava affrontando le stesse problematiche e per di più da solo? Io ero latitante, non ero il suo aiuto convenevole. Ero pretenziosa, in nome di una promessa d'amore che lui mi aveva fatto, ma l'avevo fatta anch'io. Volevo essere amata, ero perché ero affamata d'amore. Ero ingorda, non mi bastava mai. E molto difficile che un matrimonio funzioni quando ci si concentra soltanto su come e quanto il coniuge sia in grado di rispondere alle nostre aspettative. Anna si sta presentando come la tipica sposina che si aspetta dal matrimonio la realizzazione dei suoi sogni. Si aspetta dall'uomo sposato che sazi il suo egoismo e si rende conto che non è facile vivere con una persona come lei, perché ogni volta è un torneo. Come ha detto, si rende conto ora, meno quando ormai il marito è morto, meno del suo atteggiamento di prevaricazione. Si rende conto di aver sbagliato tutto nella vita, si rende conto della sua tragedia, ma ormai non ce l'ho, è più nulla da fare, e Anna lo sa. Che questa testimonianza possa scuotere quelle spose che, nonostante tutto, continuano a non essere un aiuto conveniente per il loro sposo, ma ostinatamente cercano di prevaricare il ruolo dell'uomo. Di seguito del racconto di Anna forse costituisce una della più belle e limpide confessioni dei propri errori di moglie, ma che purtroppo non ha potuto confessare al marito. Ora riesco a capire a cosa l'avevo sottoposto. Ne ho un grosso dolore e non posso neanche chiedergli perdono. Molte volte mi ripeteva in maniera cruda che mi metteva addosso una certa paura. Davanti al mio cadavere capirai tante cose. Stupidamente e meschinamente credevo intanto che esagerasse e che se fosse capitato avrei scoperto i suoi altarini, che verme che sono. La sera che l'ho visto morto non so descrivere quello che ho provato, Lì davanti a lui da sola, ma è stato in quell'attimo che dentro di me è successo tutto, mi si sono aperti il cuore e la mente, ma non potevo più condividere nulla con lui. Ora continuo a vedere ma senza di lui, e questo mi fa soffrire molto. È lo scotto che devo pagare per tanto egoismo. Sono sempre più convinta che la mancanza di una vera decisione di amare il Signore influenzi tutte le sfere della nostra vita, anche oserei dire, soprattutto quelle affettive. Io sono il risultato delle mie scelte, anche nel mio matrimonio. Il tormento di non essere stata una buona moglie, il rammarico di essere stata tanto egoista, superba e malvagia, non è paragonabile certamente al tormento dei perduti che sono all'inferno. Ma gli si può avvicinare finché restiamo su questa terra. Però, un cristiano che ama Gesù Cristo, più della sua stessa vita, che ha conosciuto l'amore e il perdono di Dio in Cristo, può risollevare la testa e iniziare una nuova vita con nuovi obiettivi, perché non c'è che è peccato così grave che possa impedire a un figlio di Dio di vivere basato sulla grazia, cioè su quei doni immeritati. Se chi ha creduto in Cristo quale unico Signore e Salvatore non realizza il completo perdono di Dio, se non trova pace e gioia in Dio, allora la sua fede è una fede zoppa, una fede difettosa. Cristo ha promesso una vita abbondante, e questo prima di tutto a coloro che hanno avuto una vita disastrata come Anna, e Anna alla fine risolleverà la testa perché prenderà la decisione di amare Cristo con tutto il suo essere. Nonostante tutto, il matrimonio di Anna va avanti, e per questa coppia sono in arrivo delle novità. Di comune accordo per alcuni anni non abbiamo voluto figli, volevamo stare da soli, conoscerci, assaporare la nostra vita a due, e devo dire che fu un periodo fantastico. Facevamo tutto quello che ci passava per la testa, non c'erano limiti, non ci ostacolavamo in nessuna maniera, sempre in sintonia, eravamo due ragazzini e come tali ci comportavamo in tutto. Se ripercorro quegli anni, devo riconoscere che, nonostante tutto, mi mancava quel quid per essere completamente felice. Ed ho scoperto cosa fosse. Il Signore era assente dalla nostra vita. Sulle nostre partecipazioni di nozze, avevamo scritto un verso, ci furono delle nozze e Gesù pure fu invitato, ma non era esattamente così. Una volta raggiunto il nostro scopo di stare insieme, di avere la nostra casa, cominciare a costruire il nostro futuro, avere la certezza del nostro amore, la voglia di costruire insieme la nostra vita, ci sentivamo invulnerabili, la presenza del Signore era quasi superflua, lui serviva se le cose non andavano bene, ma le cose andavano benissimo, bastava non fermarsi a pensare. Ricordo benissimo la sensazione e i pensieri che ebbi un giorno, era il terzo giorno del nostro matrimonio, eravamo rimasti a casa nostra, non eravamo partiti subito per il viaggio di nozze, io mi ero fatta un taglio profondo in un dito, lui era andato in farmacia a prendere qualcosa per medicarmi. Mentre lo aspettavo mi sono appoggiata al lavello della nostra cucina e ho proprio pensato che non mi sarebbe potuto accadere nulla di brutto. Tutto era stato come avevo voluto e desiderato. La nostra vita a due era cominciata sotto i migliori auspici, ma era strano. Era come se cercassi di allontanare un pensiero poco felice. Quella sensazione non mi ha mai abbandonato mai del tutto. Questa onesta descrizione del matrimonio purtroppo rispecchia la vita di tanti giovani coppie. Per Anna bastava la felicità umana, perciò, come essa prese coscienza, il Signore era assente dalla loro vita e la sua presenza era quasi superflua. Che terribile realtà per tante coppie di figli di Dio. La presa di coscienza di essersi sposati riempie a tal punto che, come ha detto sempre Anna, Dio serviva se le cose non andavano bene. Sembra che per molte coppie di credenti sia proprio molto difficile rendersi conto di considerare il Signore solo come un'osservanza di regole religiose e solo come il Dio della lacuna, cioè colui che deve provvedere ai bisogni, piuttosto che viverlo come una realtà quotidiana. Forse Anna e suo marito, senza rendersene conto, hanno scritto sulla loro partecipazione di nozze le parole giuste. Ci furono delle nozze e Gesù pure fu invitato. Per Anna e suo marito Gesù era solo un ospite, non il padrone del loro focolare. Ecco la ragione del naufragio del loro matrimonio affondato nei freddi mari del religiosismo. Ma vi sono ancora tante altre drammatiche vicende che Anna passerà, come quella di una figlia morta e la morte del marito. Situazioni, cari ascoltatori, che vedremo nella prossima trasmissione che vi incoraggio a non perdere per nessuna ragione. La morte della figlia. 6. Spot. Hai sperimentato la perdita di un figlio? Ti sei arrabbiato con Dio? Hai avuto un esaurimento nervoso? Non sei la sola, anche Anna ha realizzato le stesse situazioni. Su CRCFM continuiamo a raccontare la tragedia del matrimonio di Anna e la sua sempre più grave ribellione a Dio. Da notare, Anna non è una donna incredula, ma una credente che pensava di essere in regola con Dio. Forse, come te, gentili ascoltatrici e ascoltatori, anche questa trasmissione è da ascoltare attentamente perché il drammatico matrimonio di Anna, del quale stiamo trattando, è arrivato a una svolta segnata dalla nascita di una bambina, che in seguito muore. Anna, essendo meno, secondo una sua definizione, meno testarda, capricciosa, egoista, non ha per certo una delle migliori reazioni, ma purtroppo sono molte le spose meno, e non solo loro, meno, che nel segreto del loro cuore si ribellano a Dio perché le cose non vanno secondo i loro piani. Come disse una psicologa, le mogli hanno dei pensieri che i mariti nemmeno immaginano. Ascoltiamo il suo racconto. Dopo alcuni anni decidemmo di avere un figlio, o meglio una figlia, era quello che desideravamo, una bambina. L'attesa fu qualcosa di stupendo, ero veramente circondata, soffocata di attenzioni, di amore. In quel periodo ancora di più la nostra vita si colorava di favola. In maniera estemporanea inventavamo favole con protagonista noi e la nostra bambina. Un'esperienza unica, vissuta attimo per attimo. Per lui ero una bomboniera, come spesso mi chiamava. Ci furono problemi durante i primi 3 mesi della gravidanza, ma poi tutto si risolse. Nacque la bambina, avevamo scelto strutture all'avanguardia, lui era stato con me durante tutto il travaglio e durante il parto. Sembrava che tutto andasse per il meglio, ma era in agguato la tragedia. La bambina presentava un ittero che stentava a scomparire, però tornammo a casa ugualmente, il tutto si sarebbe risolto a giro di breve tempo. Ci accorgiamo che le cose non andavano come speravamo, la bambina non stava bene, il pediatra attribuiva la nostra eccessiva preoccupazione alla prima esperienza di genitori, ma non eravamo convinti e così interpellammo un nostro amico medico che ci portò da un illustre pediatra e così cominciò la nostra tragedia, ricovero della bambina per un probabile difetto metabolico, forse fruttosemia, cadiamo veramente nella disperazione, io resto con la bambina durante tutta la degenza di 3 mesi, lui viene sempre, resta con me, mi lascia solo il minimo indispensabile, la diagnosi infausta, ed era necessario anche andare in un luogo particolare per prendere alimenti specifici, non poteva mangiare altro, neanche il mio latte. Mio marito va a Genova e fa scorta di quello che serve. Essere dei figli di Dio non è un'assicurazione contro le malattie e situazioni dolorose. Questo sta vivendo Anna. Purtroppo tanti credenti hanno un ideale romantico riguardo alla fede cristiana, ideale che non sarebbe poi tanto grave se non fosse per la forte delusione che procura nello scontrarsi con la realtà. E la delusione, si sa, procura dei traumi non piccoli. Anna continua il suo drammatico racconto e la sua totale ribellione a Dio. Le cose si concludono nel peggiore dei modi, io sono rabbiosa soprattutto con il Signore che aveva osato sconvolgere la nostra felicità, avevo diritto ad avere una figlia sana, costruire la nostra famiglia. Non accettavo tutto quello che mi stava capitando. In un momento di estremo sconforto, gridai al Signore che se Lui non era in grado di guarire la bambina, sarei passato sfacciatamente nelle file nemiche, almeno lì avrei ottenuto quello che chiedevo senza stare a fare lunghe ed estenuanti attese come succedeva con Lui. Espressi questi pensieri ad alta voce e con mio marito, che ne rimase sconvolto e mi chiedeva di ritirare tutto. La testardaggine è una delle mie caratteristiche, almeno lo era, ora ho dovuto cominciare ad abbassare la cresta. Sfidavo il Signore, Lui doveva cedere, perché lui mi doveva dimostrare le sue capacità e quindi la sua esistenza. Un conflitto in piena regola, oltre alla tragedia che stavo vivendo. Un mattina tiepida di maggio, la bambina alle 4.20 se ne va, sono attimi eterni che non si possono descrivere, aiutati dal nostro amico pediatra, che intanto ci aveva raggiunto. Lasciamo l'ospedale senza fare l'autopsia. Alla bambina. Siamo in macchina tutti e tre, facciamo benzina, il benzinaio ci fa i complimenti per la bambina che dorme tranquilla. Non sono io, sto vivendo in un'altra dimensione, tutto è strano ed estraneo, arriviamo a casa e da lì poi comincia la nostra vita da soli. C, è una falla fra noi due, io sono intrattabile, non gli do spazio per condividere il nostro dolore, io soffro da sola, non voglio nessuno, nemmeno lui. Quanto deve aver sofferto mio marito da solo, l'ho lasciato troppo da solo? Nei momenti cruciali, come faccio a rimediare? Lui, mi dicono i nostri amici, piange quando è solo. A casa mai, mi protegge. In questo periodo io mi ammalo di una fortissima forma di depressione, che dura circa 2 anni e mezzo. Ho bisogno continuamente di avere un medico che mi rassicuri che non sto morendo. La morte mi terrorizza. Tutte le sere, quando mio marito torna a casa, trova uno straccio e per di più deve portarmi tutte le sere al pronto soccorso o chiamare la guardia medica. La situazione si fa insostenibile. Forse fanno effetto le parole di Anna in merito alla propria rabbia, soprattutto verso il Signore, il quale aveva osato sconvolgere la felicità del suo matrimonio, aveva violato il suo diritto ad avere una figlia sana e infranto la possibilità di costruire la famiglia. Ma quanti sono i figli di Dio che la pensano così? Spesso nel segreto del nostro cuore abbiamo questi pensieri e, come Anna, non accettiamo tutto quello che ci accade. Se siamo onesti possiamo anche risollevare il capo nei momenti difficili della vita e non fare come Anna che ha riconosciuto i suoi torti, quando ormai era troppo tardi. Per lei, Dio era solo un distributore automatico di benessere. Nonostante tutto, Dio, che è misericordioso, provvede anche giorni felici. Lo dice Anna nel seguito del suo racconto. Ho bisogno di un terapeuta, intanto non riesco ad avere un altro figlio. Trovo lavoro come supplente in una scuola media e superiore, faccio molta fatica a fare lezione, ho tante paure ma mi faccio forza. Porto a termine l'anno scolastico, stringo amicizie, trovo molto affetto, comprensione. Intanto, come se non bastasse, mio marito viene trasferito per lavoro a Modena a 150 km da casa. Lui fa su e giù tutti i giorni, non mi vuole lasciare da sola, poi non ci siamo mai separati. Si fa necessario il mio trasferimento a Modena. Mio marito cerca casa, la banca ci paga le spese. Intanto comincia a rischiararsi il cielo, io aspetto un altro figlio. Tutto sembra ritornare al suo posto. Ricomincio a vivere. La nascita di una bambina ci porta felicità, la sua attesa come l'altra, anzi direi di più, diventa una favola. Conservo tutto quello che riguarda quel periodo. Dopo la sua nascita ci trasferiamo a Modena, con lei piccolissima, io che combatto la mia depressione. Comincio a riallacciare timidamente con il Signore, appiano i miei rapporti con Lui, ho già delle richieste da fargli, voglio essere guarita perché la depressione mi crea tanti problemi, sono molto limitata nelle mie cose e voglio crescere nostra figlia in tranquillità. E il Signore mi spiazza, guarendomi completamente, non so il giorno che è avvenuta la mia guarigione, ma mi sono accorta volta per volta che non avevo più i miei sintomi, non avevo più le paure, le fobie. Per amore di verità, devo dire che questa guarigione ho cominciato a chiederla dopo un incontro con un notissimo psichiatra di Milano che proprio durante la prima seduta mi disse espressamente che per guarire non avevo bisogno di lui ma di mettere a posto i miei rapporti con il Signore. Fui sconvolta dalle sue parole, uscì dallo studio frastornata ma con la certezza di avere trovata la soluzione. E così fu. Che bello! In questa vita piena di sorprese non ci sono solo giorni di dolori e di nuvole, ma anche momenti di serenità e di gioia. Finalmente Anna realizza uno dei suoi più grandi desideri di donna diventando madre. Non solo. Con questo evento, meno come lei stessa dice meno, inizia timidamente a riallacciare il suo rapporto con Dio chiedendogli anche di essere guarita. E così succede. Cosa può fare una relazione giusta con Dio? Quanti inutili dolori si evitano camminando secondo i comandamenti di Gesù Cristo? Ma come a volte succede? I doni che Dio distribuisce vengono anche messi alla prova e Anna non sa cosa Dio gli ha riservato. Ecco il seguito della testimonianza di Anna. A Modena comincia una vita completamente diversa, siamo noi tre da soli, tutto è bello, io sono più serena. Riprendiamo i rapporti con la Chiesa evangelica locale e anche qui troviamo tanto affetto. Amicizia, ci sembra di essere caduti in paradiso. E l'inizio di un ennesimo periodo nuovo, ricco di impegni in chiesa, di progetti. Mio marito inizia a prendere cura di alcune piccole comunità nascenti. Le iniziative sono tante e entusiasmiamo tutti. Tutti sono coinvolti. I nostri legami fraterni si fanno sempre più profondi e sinceri. Era questo che volevo, percorrere questa strada così impervia. Insieme ai miei fratelli, essere di incoraggiamento, di supporto l'uno per l'altro. Quando tutto sembra andare per il meglio, ecco che ci è un altro dramma. Un sabato mattina, il 14 aprile 1985, la mia bambina è di là, in cucina con i nonni che sono nostri ospiti, io e mio marito ci concediamo di stare ancora a letto, tutto è tranquillo, l'aria è tiepida, la nostra casa serena, abbiamo deciso di fare alcune cose durante la giornata quando sentiamo le urla di mia suocera che viene verso la nostra camera con la bambina in braccio cianotica, sembrava senza vita, una bambola di stoffa. E il terrore, il panico. Tutto è successo all'improvviso e senza una ragione. Siamo disperati. Attendiamo l'arrivo dell'ambulanza. La bambina non si riprende, a me sembra che non respiri più. Chiediamo al Signore il suo intervento e intanto mio marito telefona a dei fratelli per chiedere di pregare. Il tragitto in ambulanza mi sembra interminabile, la mia bambina è sempre lì senza conoscenza, io prometto al Signore di servirlo, se me la guarisce. L'arrivo in ospedale e il ricovero. Ancora una volta la prima diagnosi, molto probabilmente epilessia, l'EEG, evidenzia una sofferenza, ma bisogna fare altre indagini. Rivivo l'esperienza dell'altro ricovero con la prima bambina, ma questa volta voglio tenermi aggrappata al Signore. Sperimento un altro tipo di preghiera, quella di dire, veramente sia fatta la tua volontà. Mi rendevo conto che non potevo fare altro. Cosa può fare Dio nella vita di un credente? Che reazione positiva producono le sofferenze? Anna è testarda, capricciosa, vendicativa, orgogliosa al punto che quando gli è morta la prima bambina, come lei disse, era rabbiosa soprattutto con il Signore che aveva osato sconvolgere la sua felicità. Lei riteneva di avere il diritto ad avere una figlia sana, costruire una famiglia. Perciò in un momento di estremo sconforto gridò al Signore che se lui non era in grado di guarire la bambina, sarebbe passata sfacciatamente nelle file nemiche. Almeno lì avrebbe ottenuto quello che chiedeva senza stare a fare lunghe ed estenuanti attese. Come succede con lui? Sfidava il Signore e lui doveva cedere, perché lui doveva dimostrarle le sue capacità e quindi la sua esistenza. Ora invece si tiene aggrappata a Dio, sperimentando un altro tipo di preghiera, quella che termina con le parole «Sia fatta la tua volontà». Questi sono i miracoli di Dio che dobbiamo vedere. Infatti il bello lo racconta dopo, ma che per motivi di tempo dobbiamo rimandare. Vi aspetto alla prossima perché, come me, siete attratti dall'opera che Dio compie in Anna. La ribellione a Dio. 7. Spot. Stiamo prendendo in esame la drammatica testimonianza di Anna, una donna credente che, solo di fronte alla morte del marito, si è resa conto di aver vissuto da egoista, ribelle, testarda. Nonostante questo ha sperimentato che Dio è potente a compiere cose grandi nella sua vita. È quello che sentiremo su CRC-FM. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, benvenuti all'ascolto della drammatica testimonianza di Anna. Una donna credente che si è resa conto di aver fallito nel rapporto con il marito e con Dio, solo alla morte del coniuge. Come abbiamo detto, lo scopo di queste trasmissioni è far comprendere che non è sufficiente essere credenti o figli di Dio per avere un matrimonio soddisfacente per ambedue gli sposi e anche per mettere in luce dei drammi, tensioni, ribellioni che si hanno nei confronti di Dio nonostante la fede riposta in Cristo quale Salvatore e Signore. La testimonianza di Anna inizia con la consapevolezza che, nonostante si professasse cristiana, per tutta la vita aveva vissuto un cristianesimo formale. In seguito abbiamo preso in esame la sua travagliata fanciullezza nella quale ha subito più volte molestie sessuali, abbiamo considerato il travagliato fidanzamento e i tormenti dei suoi primi anni di matrimonio, e anche la drammatica reazione nei confronti di Dio quando la prima figlia è nata malata, in seguito muore. Ecco la sua onesta e lucida testimonianza. Le cose si concludono nel peggiore dei modi. Io sono rabbiosa soprattutto con il Signore che aveva osato sconvolgere la nostra felicità. Avevo diritto ad avere una figlia sana, a costruire la nostra famiglia. Non accettavo tutto quello che mi stava capitando. In un momento di estremo sconforto, gridai al Signore che se Lui non era in grado di guarire la bambina sarei passato sfacciatamente nelle file nemiche. Almeno lì avrei ottenuto quello che chiedevo senza stare a fare lunghe ed estenuanti attese come succedeva con Lui. Espressi questi pensieri ad alta voce e con mio marito, che ne rimase sconvolto e mi chiedeva di ritirare tutto. La testardaggine è una delle mie caratteristiche, almeno lo era. Ora ho dovuto cominciare ad abbassare la cresta. Sfidavo il Signore. Lui doveva cedere, perché Lui mi doveva dimostrare le sue capacità e quindi la sua esistenza. Un conflitto in piena regola oltre alla tragedia che stavo vivendo. Questo atteggiamento ribelle e di sfida nei confronti di Dio potrebbe scandalizzare qualcuno, ma chi ha un poco di esperienza nella vita cristiana sa che molti sono i credenti ribelli a Dio. Poi Anna ha un'altra figlia, trova serenità, ma anche questa ha dei seri problemi di salute. Questa volta però il suo atteggiamento nei confronti di Dio è molto diverso. Questa volta voglio tenermi aggrappata al Signore. Sperimento un altro tipo di preghiera, quella di dire «Veramente sia fatta la tua volontà». Mi rendevo conto che non potevo fare altro. Questi sono i miracoli di Dio che dobbiamo vedere e ricercare. Un miracolo di guarigione è, per un tempo, mentre uno spirito rinnovato e toccato da Dio testimonia ora dell'opera di Dio, ma dura per l'eternità. Anna così continua a raccontare la sua esperienza relativa a un giorno in cui trova sua figlia sanottica e gli viene diagnosticata una epilessia. La mia bambina, dopo una breve ripresa, ha un'altra crisi e i medici capiscono che le cose sono diverse da quelle che avevano in primo tempo pensato. Cominciano a parlarci di sofferenza alla base del cervelletto, una massa comprime, e da questi sintomi il primario non si fa scrupolo di dirci crudamente che ci aspetta, nelle migliori delle ipotesi, avere una bambina con gravi deficit mentali. A noi la bambina sembra normalissima, è la nostra bambina vivace, allegra, rumorosa. Per i medici non è così. Comincia subito la terapia con dei barbiturici e la bambina si appanna. È più bugia. Siamo molto preoccupati, ma i fratelli ci stanno vicini, non ci lasciano mai da soli. Pregano per noi e con noi, riceviamo una grande forza da questo. La degenza della bambina dura esattamente una settimana, infatti pensano di fare un TAC, esame molto raro, 23 anni fa, e usato solo in casi molto gravi, era l'esame che avrebbe individuato l'esatta posizione di questa massa. Poi i medici avrebbero deciso. L'esame dura un po' e la bambina è sotto sonnifero, io ho paura. Ma mi sento protetta da mio marito, dai fratelli e soprattutto dal Signore. Ma mio marito cosa provava? Da chi si sentiva appoggiato? L'esito dell'esame meraviglia tutti, noi stavamo aspettando proprio quella risposta. La bambina non ha niente, tutto è normale. Non ci è spiegazione logica. Ma i medici sono prudenti, tutto si ripeterà, bisogna continuare la terapia, fare controlli. Ma noi non siamo d'accordo, per noi il Signore è intervenuto guarendo la bambina. I test del neuropsichiatria infantile danno risultati sorprendenti, quindi nessun danno. Ci dimettono con una serie di precauzioni, medicine da prendere, vengono fissati gli appuntamenti per i controlli. Abbiamo continuato così per 3 mesi, fino a che un giorno prendo la decisione di non somministrare più medicinali, ma ho molta paura. Andammo a letto con un certo patema d'animo, ma la notte trascorse tranquilla, come tutti gli altri giorni fino ad oggi. Abbiamo avuto poi modo di incontrare il medico che seguiva la mia bambina e quando ha saputo le nostre notizie ci ha letteralmente coperti di insulti per la nostra incoscienza. Ma il Signore è stato grande ed oggi mia figlia è una ragazza, oserei dire con un qualcosa in più, nonostante a volte alcune sue scelte. Le ricordo spesso che nel suo cervello il Signore stesso ha messo mano, per cui in qualche maniera questo ha lasciato un segno, e sarà il legame che un giorno si stabilirà fra lei ed il Signore. Domata da Dio, in questa esperienza Anna ha imparato cosa significhi confidare nel Dio sovrano. Fatta questa esperienza, ora Anna passa con la sua solida e rara onestà a raccontare l'angolo buio della sua vita. La ricerca della stima è un matrimonio che si sta sfasciando sempre più. Ascoltiamo cercando di esaminarci. È veramente un periodo di piena felicità, ci è tutto. A noi sembra di essere in prima linea a lavorare per il Signore, non ci tiriamo indietro davanti a nulla. Anche le bambine sono sempre con noi, sì, le bambine, perché nel frattempo a Modena è nata un'altra bambina, lei ha completato la nostra famiglia. Durante il suo ministero facciamo esperienza, veniamo a contatto con tanti fratelli, con tante situazioni, niente ci è estraneo, lui è invitato a predicare in tante chiese, è un bravo predicatore, sa parlare. Durante i suoi 12 anni di ministero penso che abbiamo conosciuto la grande maggioranza del mondo evangelico. Nasce un giornalino, i programmi per il campo estivo, l'impegno per l'orfanotrofio a Roma, il comitato di zona, lavorare insieme ad altri fratelli per i bambini, evangelizzazione a tappeto per la città, oggi dico volantinaggio, concerti in piazza, spettacoli cristiani soprattutto per bambini, impegni su impegni. Avverto in tutto questo un pericolo. Stiamo perdendo di vista il motivo del nostro lavoro, il Signore è solo una parvenza. Lavoriamo sotto il suo nome, ma non per lui. Essere apprezzati, stimati, ha in sé un enorme pericolo, e questo è quello che secondo me sta succedendo. Anche fra noi due cominciano ad aprirsi delle crepe, nascoste accuratamente dalla mole e dall'intensità degli impegni. Stiamo poco da soli, non ci è tanto tempo per noi. Ci è sempre qualcosa o qualcuno prima delle bambine e di me. Ma lo assecondo sempre, provo a parlarne. Diverse volte gli esterno la mia preoccupazione, ma lui mi fraintende. A volte si arrabbia con me, vede in me un ostacolo, pensa che io voglia competere con lui, che sia gelosa del suo successo. Io ero solo molto preoccupata perché stava sbagliando strada e i risultati non tardarono a farsi sentire e vedere. La Chiesa avvertiva un certo malessere. Non rispondeva più con lo stesso slancio. Nascono incomprensioni, malumori, divergenze. Si cominciano a creare fazioni. E l'inizio della fine, ne sono subito consapevole. Lui no. Cerco umanamente di essere sempre dalla sua parte, ma mi accorgo che sta sbagliando, anche se non lo ammetto con nessuno, che non è più l'uomo di prima. In casa ci è aria pesante, si litiga per nulla. Lui non mi fa più partecipe dei suoi progetti o delle sue idee, comincia a lavorare da solo, punto, vive 2 vite. Io credo di aver trovato la soluzione cambiando lavoro da part-time a full-time, per dare a lui la possibilità di chiedere un part-time al suo lavoro, in modo da portare avanti gli impegni della comunità con più tranquillità. Facciamo tutto senza interpellare il Signore, ci lasciamo guidare solo da secondo me. Gli errori si accumulano, la mia assenza forzata per lavoro incrina di più i nostri rapporti e ci allontana sempre più. Altre persone cominciano ad avvicinarsi a lui, a prendere il mio posto. Preavviso qualcosa, ma mi sembra impossibile, mi riferiscono alcune cose, ma io non do tanto peso, o meglio, non volevo dare tanto peso. Anna si sta addentrando sempre più nel vivo del problema in merito al matrimonio. Una testimonianza che va ascoltata con tanta solennità. Si apre il periodo più triste della nostra vita. Non che è più nessuna favola, non che è più la marmotta. Con le marmottine. E il mio dolore come la mia delusione. Sono fortissimi, non riesco a capacitarmi di quello che sta succedendo. Lui è lontano ogni giorno di più da me e dalla Chiesa. Dal Signore. non posso dirlo, ha trovato da fare ancora il pigmalione per una nuova persona. Ritorna, ragazzo. La cosa è piuttosto palese, ma a lui non importa. È pronto a rischiare tutto. Questo mi sconvolge. Perché è la sua mente ad essere coinvolta. Vive ormai un'altra vita. Accompagna all'università. Questa persona, che, guarda caso, si è iscritta alla sua stessa facoltà, lui va ad assistere alle lezioni, le fa conoscere e il professor percorre a ritroso la nostra storia. C. è una persona pronta a farsi plasmare, e lui ne è affascinato. Con me non era più possibile già da un po', e non sono stata nemmeno capace di non farglielo notare. Avrei potuto farglielo credere, forse sarebbe stato utile. Ma non so. Questo dura per quasi 3 anni, anni di fuoco, con liti terribili, violenze verbali e fisiche. Le bambine sono sconvolte e reagiscono in maniera allarmante, ma a lui non interessa, va per la sua strada e crede anche di avere l'approvazione del Signore. Io, d'altra parte, non mi faccio scrupolo del mio atteggiamento, delle mie decisioni, di pensare che sto sbagliando tutto con lui. Con le bambine non ho tempo per fermarmi e ascoltare cosa il Signore avrebbe da dire a riguardo. Lui è troppo lento, mi chiede di stare ferma, che nella calma e nella fiducia starò la mia forza. Ma non mi piace questo metodo, faccio io, perché so fare meglio. Se sarà poi necessario, pregherò. Cosa vuol dire pregherò? Sotto sotto, e forse nemiche sotto sotto, gli sto dando dell'incapace, e sono arrabbiata con lui. Non doveva permettere tutto quello che stava succedendo. Vivo la certezza che lo voglio mantenere fuori, anche gli argomenti. Lo riguardavano. A me interessava il giudizio della Chiesa, dei familiari. La mia unica preoccupazione era quella di mettere tutto a tacere, anche facendo finta. Il Signore, quando si muove, fa troppo chiasso. È inevitabile che poi tu debba riconoscere e condividere il suo lavoro. Non sono d'accordo, io so fare le cose con più diplomazia. Dopo aver risolto, riprenderò dal Signore e ricostruiremo la nostra immagine. Come tutto è grottesco. Ci distruggiamo a vicenda. Queste ultime parole arrivano al segno. Quanti sposi si distruggono a vicenda non rispettandosi e, come ha detto Anna, sono arrabbiati con Dio, lo ritengono troppo rumoroso, cioè drastico, e pensano che i loro metodi siano migliori di Dio. L'errore di certe coppie è quello di risolvere i problemi con metodi umani, mentre nel campo di Dio si può solo lavorare con i metodi di Dio, e questi metodi sono la preghiera in comune, la sottomissione reciproca a Dio nei ruoli e il profondo desiderio di fare felice l'altro. Anna però ha ancora qualcosa da dire, e che ascolteremo nella prossima trasmissione, sempre su CRCFM. A presto. L'orgoglio 8. Molti matrimoni sono in crisi e spesso gli sposi non sanno neppure perché. Ebbene, nella testimonianza di Anna, una credente che si è ribellata a Dio, vi è una rara descrizione di come un matrimonio possa fallire. Ascoltami su CRCFM con uno spirito di autoesame, perché ti farà solo del bene. E se vuoi fare una cosa buona, invita caldamente altri ad ascoltare ciò che dirà Anna. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, per non perdere nulla della drammatica, ma anche seducente, testimonianza di Anna, passiamo subito ad ascoltare le sue parole. Nella trasmissione precedente siamo arrivati al punto in cui Anna si ribella di nuovo a Dio. Ecco qui di seguito le sue parole. Dio è troppo lento, mi chiede di stare ferma, che nella calma e nella fiducia starà la mia forza. Ma non mi piace questo metodo, faccio io, perché so fare meglio. Se sarà poi necessario, pregherò. Cosa vuol dire pregherò? Sotto, sotto, e forse da nemici, gli sto dando dell'incapace, e sono arrabbiata con lui. Non doveva permettere tutto quello che stava succedendo. Vivo la certezza che lo voglio mantenere fuori, anche gli argomenti. Lo riguardavano, a me interessava il giudizio della Chiesa, dei familiari. La mia unica preoccupazione era quella di mettere tutto a tacere, anche facendo finta. Il Signore, quando si muove, fa troppo chiasso. È inevitabile che poi tu debba riconoscere e condividere il suo lavoro. Non sono d'accordo, io so fare le cose con più diplomazia. Dopo aver risolto, riprenderò dal Signore e ricostruiremo la nostra immagine. Come tutto è grottesco! Ci distruggiamo a vicenda. È massacrante quello che stiamo facendo. Ho davanti un marito che non conosco, non è più tenero, non è più gentile, invece estremamente violento, fuori casa prende le sue sembianze umane e se provo a parlare con qualcuno di quello che sta succedendo, nessuno mi crede. Io sono la persona impossibile, la dura, la spietata. Non riesco ad addentrarmi in questo dolorosissimo periodo per parlarne serenamente per tanti motivi, uno dei quali è perché manca lui che avrebbe senz'altro la sua verità, le sue ragioni, valide quanto le mie. Infatti voglio precisare che la mia è una verità parziale, soggettiva, di parte. È la mia e pertanto attendibile fino ad un certo punto. Anche gli avvenimenti non sono lineari, chiari, si sovrappongono, si intrecciano, proprio perché si parla di una vita, non di un romanzo, e come tale, la vita è fatta di mille ed una sfaccettatura. Se ne possono prendere in considerazione alcune, io, senza volere, ne sto prendendo quelli che in questo momento mi sembrano i più significativi ed attinenti. Ma la nostra vita è stata molto di più. Tutto è molto parziale. Però, nonostante tutto, anche oggi come allora lo difendo, lo copro, perché lo amo, allora lo facevo perché speravo che le cose si sarebbero messe a posto, non poteva non essere così, mi dico è solo questione di tempo, oggi lo difendo e lo copro perché capisco la sua sofferenza e quella che gli ho procurato, il suo sentirsi in trappola anche nel matrimonio, il combattimento fra ciò che voleva fare e quello che era costretto a scegliere. È terribile per due coniugi essere coscienti di distruggersi a vicenda, eppure questo atteggiamento lo troviamo anche tra coppie credenti. Anna non finisce di stupirci per l'onestà di Pedro. Non sono stata al mio posto, e questo squilibrio ha creato inevitabilmente devastanti terremoti all'interno di un rapporto e di una famiglia. Con il mio comportamento, di persona che crede di saper far meglio, ho sminuito la persona di mio marito, umiliandola e esponendola come incapace di svolgere il suo ruolo e, soprattutto, so di non aver ubbidito a quello che il Signore ha lasciato scritto per il nostro ammaestramento. Il sereno ritornerà, tutto sarà come prima, ma non è così, anche altre persone si sovrappongono alla prima, portando devastanti danni in ogni campo, da quello affettivo a quello economico, ma io ancora non cedo. Credo di poter risolvere con le mie iniziative, vedo crollare tutto, ma vado avanti ugualmente per la mia strada, con un desiderio di risolvere sì la situazione, ma di avere la mia rivincita e vendetta. In ogni caso, quando le cose si sarebbero messe a posto, glielo avrei fatto pagare, poi sarei tornata a quella di prima. Dio solo sa come avrei fatto e cosa stavo macchinando. Lui ha dato l'alt definitivo. Per la nostra stupidità, per la mia arroganza, per la mia cattiveria, meschinità e per il mio smisurato orgoglio. La morte è stato un atto di gentilezza e di protezione da parte del Signore. Io l'ho vissuta così, anche se non era quello che volevo, avrei volentieri scambiato i posti. Quando ho incontrato la morte, ho pensato subito al verso del Salmo 27, verso 5. Poiché egli mi nasconderà nella sua tenda nel giorno dell'avversità, mi occulterà nel luogo più segreto del suo padiglione, mi leverà in alto sopra una roccia. Non sapevo pensare ad altro. Sono responsabile io con il mio atteggiamento, quanto lui con le azioni. Lui ha perso completamente il controllo della sua mente, dei suoi pensieri. Dio è un nemico per lui, chi gli procura infelicità, dolore, rabbia e cerca altre forme di appagamento, cerca risposte altrove. Ma io non lo fermo, lo voglio costringere, non lo aiuto, lo voglio obbligare a fingere per evitare una mia eventuale vergogna. È possibile, mi domando, che un moglie credente possa comportarsi così? Sì, è possibile. Perché la fede in Cristo non garantisce la santità, e lo hanno dimostrato tutti quegli uomini di Dio, che benché avessero dato una bellissima testimonianza di fede commisero anche gli errori più grossolani e a volte orrendi. Che l'esempio di Anna possa essere un avvertimento per tutti noi che siamo credenti e che ci faccia prendere coscienza della nostra fragilità e della necessità di avere un comportamento che procura piacere e soddisfazione. In questo modo Anna continua l'analisi morale in merito a se stessa e al marito. Si può essere così terribilmente ipocriti e falsi quanto lo sono stata io? Resto scioccata di quanto male sia capace di fare, ma in questo marasma vivo ora l'esperienza più bella e significativa della mia vita. Mi si presenta un signore che non avevo conosciuto sotto questa veste, sotto la veste del recuperatore, del restauratore. Mi recupera per portarmi in un luogo protetto, asciutto, al sicuro, e cominciare a ricostruire la mia vita. Prima di cominciare di mettere mano, chiede il mio consenso, la mia approvazione, io sono esausta e glielo sto permettendo, a volte voglio che interrompa il trattamento perché spesso è doloroso, non lo credo necessario, credo che quello fatto è già abbastanza, ma lui non è di questo parere. Ho dei conflitti con lui, mi riserva un trattamento troppo drastico, secondo me. E un grosso imbroglio, il secondo me, è il modo giusto per non guarire e venire fuori da situazioni difficili o meno. Inizia un tristissimo ed inesorabile scivolare verso il baratro. Anch'io incolpo il Signore che ha permesso che accompagnassi la mia vita a quella di una persona che si sarebbe rivelata poi così sbagliata per me, ma probabilmente anch'io ero sbagliata per lui. Incolpo Dio di non essere intervenuto al momento giusto per impedire la catastrofe. Lui se ne è stato in disparte, ha guardato, visto, ma non ha mosso un dito. Ci sono momenti in cui mio marito mi chiede aiuto, ma io non so come aiutarlo. Cerco di fare quello che credo sia giusto, ma non serve. Cerca di ritornare indietro, ma non si sente perdonato da me. Mi chiede di riportarlo nella nostra tana, prova a usare le nostre tattiche, ma nel mio cuore ci è troppa umiliazione per poter fare le cose con amore, fingo, mi sforzo. Vorrebbe forse riparare tutto. Vorrebbe che non fosse mai successo, ma è successo e non si può ignorare. Restano ancora qualche vestigia della favola iniziale, ma ha perso la credibilità. Ora cerca di far presa con le nostre figlie. Gioco facile, ma molto pericoloso anche per loro, visto che la realtà non viene mediata in nessuna maniera. Il problema è che manchiamo di equilibrio fra il quotidiano e il sogno. Faticosamente cerca di mantenere una dimensione di favola con le figlie, ma tutto è forzato, loro per prime se ne accorgono. Questo sta minando lui che si accorge che non riesce più a tenere a bada la falla e sta ingannando noi che ci sentiamo in balia del caso. Invidio, faccio compromessi, rinfaccio, è una girandola di insulti, di offese da parte mia, voglio scuoterlo, dico, lo voglio offendere per la sua incapacità. E il suo cuore si segna ogni volta. Tante e tante cicatrici. Non c'è la favola, eppure mi aveva assicurato che per noi era possibile, perché lui era capace di amare anche per me, che se io fossi venuta meno, lui avrebbe retto per noi due e per le nostre marmotte. La grande delusione di Anna in merito al suo matrimonio continua ad essere evidente. Ciò che è drammatico in un matrimonio non sono tante le circostanze, le incomprensioni o le liti, ma è ciò che muore di dentro, è quando viene a meno anche l'ultima virtù che dovrebbe accompagnarci fino alla tomba, e cioè la speranza che ci sia qualche possibilità. Ma per Anna anche questa ormai non c'è, è più. Così Anna ci interroga. Mi sono lasciata illudere? Era così grande la voglia di essere amata, accettata, da accettare anche l'assurdità dell'irrealtà? Ma il Signore in tutto questo dove l'ho lasciato? Che posto gli ho concesso? Che posto gli ho riservato? Vorrei. Ma non so neanche io stessa cosa. Come e quando? Mi rendo conto che è un'impresa titanica raccontarsi, perché la vita di ognuno è costellata da miriadi di avvenimenti, collegati a sensazioni, emozioni, sentimenti, considerazioni, decisioni, progetti, sogni, delusioni. E collegare tutte queste cose con un filo logico è estremamente difficile. La mente corre più velocemente della mano nello scrivere. È difficile tradurre simultaneamente pensieri in parole. Ancora una volta Anna ha messo il dito nella piaga. Il problema dei problemi in un matrimonio è che noi abbiamo un disperato bisogno di essere amati. Se non fosse così non ci saremmo sposati. Perché nessuno di noi si sposa solo per far felice l'altro. Anzi, a volte non ci passa neppure per l'anticamera del cervello che il matrimonio è il luogo dove maggiormente siamo chiamati ad amare il più delle volte a senso unico un'altra persona tutta diversa da noi. Anna ha detto il vero, che la voglia di essere amati è tanta che siamo disposti ad accettare ciò che non è reale. Accettiamo anche persone con un carattere che sappiamo non essere di nostro gradimento, con l'illusione che questa sia in grado di amarci. E è vero, siamo così complessi e complessati che non siamo in grado di capire in fondo cosa cerchiamo e così ci doniamo disperatamente anima e corpo a qualcuno con la speranza che questo sia in grado di appagare il nostro insaziabile desiderio di amore e in questo stadio, se non è per la grazia di Dio, finiamo per accoppiarci e accompagnarci con la persona sbagliata. Più passa il tempo e più mi rendo conto che è veramente una grazia di Dio trovare quello che si dice meno l'anima gemella, cioè quella persona che è un altro te stesso. Se Dio non ci viene incontro con questo dono, ci è impossibile fare una scelta giusta, perché siamo talmente sbagliati. Anna lo ha testimoniato. Inoltre, abbiamo parlato solo di Anna, ma cosa avrà sofferto il marito? Su un piccolo bus ad Accra, nel Ghana, c'era una scritta significativa: l'uomo soffre, ma la donna non lo sa. Infatti Anna non lo sapeva. Ma pucha fa pitre col mancate. Vi sono altre cose che Anna dice anche riguardo al campo sessuale, e questo lo faremo nella prossima trasmissione. L'ambito sessuale. 9. Spot. Come va il tuo matrimonio nell'ambito sessuale? La storia drammatica del matrimonio di Anna ha rivelato un fallimento su tutti i fronti, anche nel campo sessuale. Ascoltami su CRCFM, perché sei ancora in tempo ad ascoltare come una sposa cristiana possa ribellarsi a Dio, al marito, alla vita. Ma con una conclusione da favola. Non dimenticare di invitare all'ascolto amici, parenti e tutti coloro che hanno dei matrimoni falliti. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, siamo arrivati all'ultima puntata della drammatica storia di Anna, una donna credente che ha riconosciuto di essere stata ribelle prima di tutto a Dio e di conseguenza anche al suo ruolo di moglie e madre. Infatti essa riconobbe il suo errore di fondo con questa testimonianza. A volte penso che se i problemi che abbiamo vissuto nel nostro matrimonio fossero stati vissuti diversamente, nel senso che se fossi stata io la persona più remissiva, probabilmente le cose sarebbero andate molto diversamente. Sarebbe stata quasi una situazione normale. Io come donna dovevo sottostare, non pretendere, accettare, discutere poco. Lui come uomo sarebbe stato giustificato ed anche approvato se mi avesse dato poco spazio, se mi avesse dato un ruolo secondario, ma io mi sono imposta. La testimonianza di Anna dimostra che un rapporto sbagliato con il proprio partner è sempre il risultato di un rapporto sbagliato con Dio e con il ruolo che Dio ha voluto affidarci. E purtroppo, come testimonia ancora Anna, spesso certe cose si comprendono solo quando è tardi. Ascoltiamo. Punto punto. Alla luce della mia esperienza di vita, oggi comprendo che non ho inteso il vero significato del matrimonio e che esso è infinitamente di più di quello che credevo. Intanto è, tra i rapporti interpersonali, uno dei più difficili. E nel contesto dove sono vissuta ad un certo punto della vita di una donna, soprattutto il matrimonio è un traguardo, una sistemazione, il punto di arrivo per la costruzione di un futuro. C. È ovviamente un desiderio legittimo di continuarsi, e il legame matrimoniale permette questo. Ho dato una diversa importanza e significato al matrimonio quando non ho più avuto un matrimonio. A volte è strano capire cose che non puoi più applicare e vederne i benefici, sembra quasi un controsenso. Cosa mi serve mettere a punto queste cose? Quando non ho più un marito, non ne ho la più pallida idea. Oggi per me il matrimonio è un consegnarsi uno nelle mani dell'altro con fiducia. L'interrogativo di Anna cosa serve comprendere i propri errori può sembrare sensato, ma se Dio ci fa vedere gli errori in un certo momento della nostra vita, forse non è tanto per noi. Quando perché possiamo testimoniare agli altri affinché non facciano gli stessi nostri errori? Infatti la testimonianza di Anna di essere stata una moglie egoista e prevaricatrice oggi può servire a tutte quelle spose che non accettano il giusto ruolo di aiuto convenevole. Occorre ricordare che Dio ha creato la donna come aiuto dell'uomo e non come capo guida. Inoltre, Non è mai e poi mai buono per una moglie vendicarsi del proprio marito anche quando ne avesse tutte le ragioni. Anna ora passa a considerare che anche i rapporti sessuali hanno subito un loro deterioramento e di conseguenza anche il mancato rispetto della personalità altrui. Quando parlo di fallimento mi riferisco quasi esclusivamente a come ho vissuto il mio matrimonio, a che significato gli ho dato, cosa ha rappresentato, cosa mi sono aspettata. Sono certa di dire una cosa vera se dico che durante la giornata il pensiero di mio marito non mi abbandona mai, è eternamente presente. Quando le incomprensioni hanno cominciato a fare capolino nel nostro matrimonio, non ho potuto fare a meno di rendermi conto che i nostri rapporti sessuali ne avevano risentito. E sono stati un po' il termometro della situazione, ci hanno segnalato grado per grado il malessere. Ma come spesso ci è accaduto, abbiamo finta di nulla, ognuno è rimasto arroccato nel suo posto. Nel nostro matrimonio i nostri rapporti sessuali hanno sempre avuto una grande importanza e significato, li abbiamo vissuti veramente come uno dei modi per comunicare, dimostrarci amore, affetto, stima uno dell'altro, accettazione, come un deporre le armi, mostrare la nostra vulnerabilità, era mettere da parte qualsiasi arma di difesa o di pretesa, sicuri uno dell'altra. Era il nostro noi, nessuno ne poteva far parte e nessuno ne potrà mai fare parte. Ma non sempre le cose che pensiamo ed amiamo e che ci appartengono sono così determinanti ed inattaccabili. Per me allora lo erano, erano irremovibili, perenni come le nevi dei ghiacciai, fra di noi e te. Noi non poteva esserci nessuna inclinatura, tutto era perfetto e sarebbe rimasto tale nei secoli dei secoli. I talenti tei fi la Marco Taua. Sì, è stato un momento che io posso datare, in cui le cose sono cambiate anche se in modo molto velato, direi impercettibile, ma c'erano. Strada facendo, portavo mio marito nel mio mondo, lo risucchiavo, lui perdeva il diritto di autonomia, era vincolato a me, di conseguenza viveva la mia vita. Non anche la sua. Che cosa terribile. L'amore conserva e preserva l'identità della persona amata. Perché un giorno l'abbiamo scelta proprio perché era così. Lui si lascia trasportare docilmente, mi dice che è piacevole stare con me, che sono come un fuoco d'artificio, a volte mi dice che sono un vulcano e mi chiama Stromboli, non lo annoio mai, con me non ha il tempo di abituarsi. Sono una sorpresa continua, per cui mi lascia passare tutto, anche le prevaricazioni. Perché tutto questo poteva restare positivo, doveva necessariamente essere controbilanciato dall'equilibrio, dalla sobrietà, dalla banalissima normalità e soprattutto dall'accettare l'altra persona senza il progetto di volerla diversa, di conformarla all'idea di partner che abbiamo coccolato nella mente, è crudele voler snaturare una persona solo perché così ci aggrada. Ora Anna entra nei particolari tipici di ogni coppia, particolari che devono farci riflettere. Quando la sera ci troviamo soli, piano piano scivoliamo nell'ignorarci, lui mi cerca meno. Non ha più tante attenzioni, non ha niente da dirmi, se non le solite banalità, con il passare del tempo. Scompariranno, mi chiedo il perché, comincio ad osservarmi, effettivamente devo tenermi più in ordine. Essere più piacevole per lui, ma questo non basta, lui si allontana ancora, lui è già lontano. Probabilmente non lo ammette apertamente perché è un qualcosa che fa paura, spiazza, non previsto. A volte cerca di parlare con me, ci spieghiamo, ricominciamo, ma qualcosa manca. Le cose sono cambiate. E, troppo spesso fuori casa, orari insoliti, comincio ad allarmarmi, chiedo spiegazioni, cerco di trovare contraddizioni nei suoi discorsi o nelle sue scuse, di verificare i suoi alibi, mi accorgo che sto diventando pesante, opprimente, ma non demordo, e così facendo non risolvo niente, anzi, ottengo l'effetto opposto, lui si allontana ancora di più, scappa continuamente, appena può. Il mio comportamento è una cosa miserabile, lo ricatto, lo ossessiono, lo minaccio. Vorrei riprendermelo usando anche la nostra intimità, ma non lo voglio veramente, sono offesa. Non è il modo per tenerlo legato, avrei sempre il dubbio che possa esserci qualcosa di forzato. Quando si formano delle crepe all'interno di una coppia, anche il rapporto fisico non ha più la stessa efficacia, non ho il coraggio di prendere l'iniziativa. È una cosa disdicevole per una donna. Anche se sono sua moglie e sono quindi autorizzata a farlo, la intolleranza e durezza ovviamente non fa che allungare il divario fra noi due, ormai le cose sono precipitate inevitabilmente. Posso tornare indietro? Vorrei cedere su alcuni miei principi, Alcune volte ci riesco, ma il più delle volte si fa strada in me la convinzione che lo devo punire, devo fargliela pagare. Decido di allontanarlo fisicamente. Mi aspetto che lui, come ero abituata in passato, mi cerchi, insista, ma non è più così. Si è stancato, è stremato, soprattutto è disinteressato, e nel frattempo lui ha avuto la sua rivincita. Ha trovato chi lo apprezza per quello che è, che non gli chiede di cambiare, anzi. Mi sento ferita. Perché poi, se sono stata io stessa a trascinare le cose fino a questo punto? Io lo volevo, ma alle mie condizioni, ed io ho ancora il coraggio e la freddezza di tenerlo legato per il collo. Non vado alle sue ferite, guardo le mie. Non doveva comportarsi come aveva fatto. Cari ascoltatori, quante spose si comportano così, e spose cristiane? Qualcuna di queste sarà toccata dalla testimonianza di Anna, o forse dovrà morire il marito perché certe cose siano finalmente comprese. Anna volge al termine della sua testimonianza con una toccante riflessione che dovrebbe cambiare la vita di chiunque ascolta. Il fatto principale è che in quel momento, oltre ad essere lontani noi due, eravamo lontani dal Signore. Non compariva più nella nostra vita, lo avevamo bandito, il nemico la faceva da padrone. O meglio, sembrava, perché sono sicura che il Signore non ci ha persi di vista un solo istante. Ha dolorosamente assistito al nostro karakiri, ma ha saputo restaurare le nostre vite anche se in maniera diversa. Ha saputo nella sua infinita saggezza ritessere, non rammendare le nostre esistenze. Rivelandosi man mano, facendo minuscoli passi dentro di noi per evitarci dolore e sofferenze. Portando lui al sicuro. E, come se lo avesse salvato da una macchina in folle corsa, prima dello schianto finale, prendendolo prima dello schianto, per me ha pensato diversamente. Mi ha in cura, ha rimedi che giorno per giorno rimarginano ferite, rotture, contusioni, ustioni, eccetera. Cosa farei oggi, alla luce di quello che il Signore mi sta rivelando? Posso darmi una risposta ipotetica. Comincerei a prendere in considerazione di rivedere i miei punti di vista, a rinunciare a me. Per ritrovare noi due, almeno il tentativo lo farei, sarei certamente meno rigida e il dolore piega. E, se ho capito, è perché ho sofferto, e anche oggi soffro, è un dolore che potrebbe spaventare, ma non è così, lo si capisce subito appena lo incontri e ne vieni a contatto. Sai che è il preludio alla guarigione. Lui stava cercando da me le stesse cose, avevamo bisogno l'uno dell'altro, è questo. Uno delle peculiarità di un matrimonio, tre capi valgono più di una, noi due ed il Signore. Ma io volevo di più, non volevo essere un capo della fune, ma il capo primo. Non avevo mai provato, prima di incontrare lui, ad essere tenuta in così alta considerazione, direi quasi adorata. Ho avuto tanto, ma non l'ho saputo apprezzare e custodire. Ho disprezzato e deprezzato quello che mi dava. È questo che vorrei dire personalmente a mio marito, che ho finalmente capito. La lezione è stata chiara ed esauriente, una lezione cruda, dura e impegnativa. La noia, la routine, la mancanza di slancio di cui spesso si lamentano le coppie dopo alcuni anni di matrimonio nasce proprio dal fatto che insieme non si è scoperto il vero significato del matrimonio, ma si è accettata come dato di fatto una convivenza obbligata, più o meno piacevole, dove ognuno resta un nessuno e si è gelosamente soli, ognuno pone un limite invalicabile che l'altro non può oltrepassare adducendo la scusa del rispetto della persona, ma quando io ho posto un limite o un recinto l'ho fatto per un motivo ben preciso, non volevo nessuno in quello spazio, neppure Dio se non quando lo decidevo io. Oggi, con l'aiuto del Signore, sto cominciando a riordinare le mie cose per importanza, cerco di trovare la giusta collocazione ad ogni cosa, dubito che possa essere un lavoro a breve termine, però avverto la presenza del Signore dietro le mie spalle, che come un affettuoso genitore si prende la briga di dedicarmi del tempo per darmi le direttive per arrivare a trovare un ordine logico, utile e piacevole, perché sono sicurissima che lo scopo unico per il Signore è la mia felicità. Lui mi vuole felice, ed io perché non lo voglio essere? E per felicità intendo non certo l'appagamento o il raggiungimento di quello che desidero, ma conoscere il Signore. Di fronte a questa ultima e meravigliosa testimonianza di Anna, cari ascoltatori, Io piego le ginocchia e ringrazio Dio che il suo amore immeritato è più grande di tutti i nostri fallimenti. Che Dio benedica tutti i matrimoni, ma soprattutto quello dei suoi figli. Vi attendendo alla prossima. Maggio 2007. Ellero.